Continua a nascondere il bottino. Vai, andiamo in diretta su tutti i canali se riusciamo. Anche su io, quello del Reno. Va bene? Esatto, abbiamo già cominciato con le stronzate. Boh, in realtà sì, siamo in diretta 10 secondi, quindi purtroppo l'abbiamo già sentita. Va bene, benvenuti al 13° episodio di Coglioni. Siamo tornati. Coglioni. Con i vostri coglioni preferiti. Tycoons and Dragons, ci potete seguire sulla pagina Facebook. Allora, questo è il 13° episodio di Coloni. Salla ovviamente come d'abitudine è scappato via appena siamo andati in diretta. Sto facendo un test, certo, tipico delle te del 9:30 francese. Allora, ci stai, il teino francese. Come sapete, forse ricorderete, giochiamo a Dungeons and Dragons versione 5.0 e con me da Bologna della Giacomo Vecchi abbiamo Giulio Bosi, Luca Lazzarini, Stefano Gamberoni, Enrico Catabriga e vaffanculo. E invece da Marsiglia abbiamo solo il vaffanculo, e volevo dire Edoardo Saladini. Ragazzi, in questo vuol dire che ci siamo tutti e questo non è una di quelle cose. Anche Arci. No, Arci non gioca più con noi a Dungeons, non possiamo avere tutti. Però abbiamo tutti gli effettivi e questo è emozionante. E senza ulteriori indugi, a questo punto, se funziona, se va, io manderei la sigla. Ma con qualche indugio dovuto al fatto che non funziona più di tanto. Ops. Diretta. Per la gioia dei vicini, che adesso sappiamo che siamo tornati. Siamo finalmente tornati, è vero? Esatto. E gli abbiamo lasciato un mese di tranquillità. A chi? Ai vicini, dicevo. Adesso facciamo vedere a tutto ai merchandise. Questo non l'ho comprato adesso. Ah, in salute! Però ha detto che ci viene sopra, quindi non lo toccherei. Quello serve. Ah sì. L'abbiamo visto a Urbanis. Sì, aveva già fatto il suo esordio. Tra l'altro con un audio strepitoso. Anche questa è nuova per fare il coso. Che quella la. Altra cosa che penso, è l'argilla. Pezzo, quanto prendi al mese? Troppo. Tanto pare. Ah, roba che costa un po'. Quando morirai tu per gli orari, fatti sostituire vengono del tuo. Allora. Come se comprato un nuovo Mac avrei capito. È la prossima cosa. Come fai a comprare il computer nuovo? Questo no, costa troppo. Costa troppo? Costa un casino il metro. Wow, Regis. Se vuoi fare la colletta. Fatti regalare una chitarra, poi la rivolgo. Va bene. Allora. Beh, però dissolvenza. Dissolvenza non riesco ancora a produrla. No, c'è in realtà c'è una roba che vorrei fare. Basta abbassare il volume. Voi si può anche non comprare il Mac, cioè, sono anche altre marche. Allora, vediamo se riusciamo a mettere salva. Mercedes. Bonus! Vai. È abbastanza alto. Non aveva senso questo. Sono anche altre marche. Marche. Ah, ho capito, macchine. No, Marche. Allora, dai, io ce l'ho già pronta. Prova a dirla tu. In francese, Giulio. Adesso che l'hai sentita intera, so prova francese. A rispondere. Io ce l'ho già la allora, pronta. Proviamo a fare un riassunto galattico per una persona che non che si vedeva da 3 o 4 sessioni. Guarda che la dico io, la cazzata. No. Allora, la cazzata così come possiamo andare avanti. Ci sono anche altre Toscane, altre Umbria. L'unica cosa che ho segnato è stato il tempio di Agnaruk, l'occhio di Agnaruk, Taius, il capitano della nave. Sì, ho visto che prende gli appunti veramente utili per me, soprattutto. Allora. Il tag, lo gnomo, i collezionisti. Sì. Ma sono tipo dei link che tu apri sì, esatto. E portano qualcosa. Cioè, non è io in questa campagna. No. Allora, ricordandovi che ci potete seguire ovviamente su sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e sul blog di ripgdr.wordpress.com, oltre che su Twitter, anche se non ho postato niente oggi. E male, si può avere tutto. Male. Possiamo male. Postare adesso una diretta di Twitter. E ormai no, è nella stessa condizione di Emma. Cosa? Non ho più tempo per cagare. Io? No, un po' di cagatine l'ho fatto. Sono venuto anche in palestra da è vero. A dormire. A allenarsi. No, in realtà ho fatto cagare, però beh, ci sta per l'edizione. Comunque, a parte questo, salutiamo Arci. E siamo in quattro, quindi? Ah, Salla, beh, tanto quello ci sta. Cioè, lui c'è sempre per dire cazzate prima, poi inizia la diretta e scompare per tipo 80. È andato a fare il tè. Quando poi tocca a lui, lui proprio lo vedi, senti la porta che sbatte. Salla. Un motore che parte. Che vu. Va bene. E allora, facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Direi che non lo faccio io così. Super sceo, faccio io fino all'ultima puntata dove farete voi, anche perché ho bisogno che mi diate qualche... Ah, io non c'ero. Sì, è Sal, esatto, anche non lo sa. Allora. E voi. Allora, all'inizio della seconda stagione i coloni sono arrivati finalmente alle colonie del nord. Qui io hanno scoperto che avevano già scoperto che dovevano andare in quella più a nord possibile, quella più infame di tutte. Tana dell'Orso. Esatto, Tana dell'Orso, bravo, oh, giusto. E quindi hanno fatto di tutto per farsi mandare su e ci sono riusciti, anche grazie all'aiuto di Cabe, che però li ha abbandonati rimanendo appunto a Varkard, che è la colonia più importante. Hanno quindi preso la nave delle Baldracche per andare a nord. Sono stati però travolti da una furiosa elementale dell'aria, che è stato combattuto e sconfitto anche grazie a Arian. Beh sì, vabbè, un po', dai, ci sta. Io non so, non lo conosco. Puoi parlare a voce alta? No, chi... no, era per non interromperti. Chi... io non lo conosco. Cioè, non capire, l'hai interrotto a voce bassa? Sì, sì. Voce alta. Allora, sei dei capelli? Mentre andavo io? Anche tu? Sì, io non sì. Credo proprio. Come no? Guarda che se li era tagliati a San Benedetto, tipo. Ha solo allungato la barba, forse. Ci sta, però stai primo ce l'ho. Però stai bene, bravo. Vabbè, il suo PG lo conosco. Ecco perché se li ha tagliati apposta per prendere un colpo d'aria e ammalarsi, non per non interrompere lui. È un arciere. Comunque, a chi ci segue, se volete copiare il taglio di Salla. Un po' confuso. Guarda che figata. Oh, intanto vi ricordo che potete comprare del bellissimo merchandising. Se si toglie i pantaloni e fa vedere che anche le mutande di GDR. Ah merda, se le facessero ne comprerebbero 12. Ma con RIP GDR sul pacco? Ovvio. Dietro scritto anche domenica, dietro. Lunedì, martedì. Dietro ci metto la nuvoletta. Allora, quindi sono partiti verso nord. Tocchi le mutande con la lapide sul pacco. Che spettacolo, bisogna assolutamente trovare un sito che ce le fa. Allora, sono appunto stati travolti da questo elementale, ma l'hanno sconfitto. Facciamo le cene aziendali, i pranzi aziendali, bisogna fare la foto di gruppo con le mutande. Sì. Come cazzo si? Compro un bavaglio, sai che bello. Bello, quello ci sta. La metà è sceo, geniale. No, non va mai in quel senso. Quello che due lo metterei all'asta. Buona idea, buona idea. Che cavolo. Buona idea. Comunque un'altra cosa. Comunque, allora, sono arrivati, sono dovuti sbarcare sull'isola degli Albatros. Non mi ricordo come si chiamano i dati. Però con le mani. Bravo. Sono arrivati sull'isola degli Albatros per recuperare della legna, per riparare la nave, cosa già vista. L'isola dell'Albatros è questa isola abbastanza grande, ma anche abbastanza sconosciuta e sinistra. Qui hanno incontrato dei cultisti di un culto più o meno dimenticato, tant'è che era di un dio, questo dio Agnaruk, che era dimenticato anche da chi doveva sapere. Chi dovrebbe sapere, cioè la carta. Perché doveva. È vero! Ehi, aspetta! Perché era praticamente il fratello del dio di Katta, ma Katta non se lo ricordava. E vabbè, insomma, se non è che dobbiamo sapere anche le parentele, sono parenti sette. E ho parenti Albatros. Comunque vabbè. Lì sono stati poi tutti sconfitti. Giulio si è bagnato nel sangue dei cultisti per più o meno come due ore. Come bagnato nel sangue dei cultisti? Ha fatto un rituale che prevedeva un bagno nudo nel sangue dei cultisti. Ma lì c'era in cui sgozzava gente. Esatto. Sì, e Kata invece ha recuperato, ha riempito la fossa col sangue della gente. O meglio, Quakert ha recuperato una misteriosa pietra rossa con venature nere, indicata da questo inquietante albatros gigantesco con un occhio rosso, che però sembrava approvare il fatto che Kata abbia preso questa pietra. E dopodiché sono ripartiti i coloni e sono arrivati finalmente a Kafkar. E da qui direi che inizia l'ultima puntata, di cui però vorrei un riassunto dai tre che c'erano, anche sparsi, ma comunque un po' a Giulio. Raga, io mi ricordo solo del mio rituale. Quello è stato qualche settimana fa, qualche settimana prima. È stato tutto qualche settimana fa. No, non importa che stai così, no. Mettilo pure se vuoi. Comprare. Ah, se volete finanziarci, sapete che su Society 6 potete trovare il nostro merchandising. Ma diretta a basta. Se cacci dei soldi e basta, va bene. Sì, ma è più figo così. I collezionisti. E di questo gnomo. Ah, sì, perché tipo... Non provo a cliccare. Insomma, questa è lo storyline di Lazo. Lazo, racconta tu cosa hai fatto. Non ho fatto niente io. No, prima c'è lui che... L'abbiamo anche seguito, quindi... Prima c'è lui che deve fare la cosa nella locanda. Ah, già, quella roba che ha provato a sedurre la tizia. No, questo l'ha fatto alla prima colonia. Ah, ecco. Sì, no, se l'hai fatto con lo gnomo che... Oh, ragazzi, sono io perché... Si stanno sovrapponendo delle linee. No, in teoria era il tipo... Vi ha mandato il capitano da questo tipo perché dovevate riscuotere... Non so se dei soldi o dei beni comunque per lui. Ma che scelgo sa più di voi? È quella in cui dovevamo salvare Ido Ponte Magatello. Ah, già. Va bene, raga, allora, dico quello che mi ricordo io, vediamo se riuscite a ricordarvi qualcosa voi. Anche perché non si può dare l'imbeccata, quello degli albatros passato. Almeno nell'ultima puntata lui è andato nel posto che spariva. Dove c'è la porta, sì, che spariva? No, almeno quello non ci sono. Porta che spariva. Sì, non ti ricordi. Allora, per prima cosa voi siete sbarcati e il capitano Taius, capitano della nave delle Baldracche, vi ha voluto parlare. Mm-hmm. Vi ha detto che vi siete comportati molto male. No, non è vero. Vi ha detto che vi ha visto che siete comunque dei picchiatori. E praticamente voleva in qualche modo vi ha chiesto insomma di aiutarlo in un'operazione di più o meno strozzinaggio, cioè nel senso nel recupero crediti, diciamo così. E perché c'è questo gnomo a cacchio che si chiama PT Tag, che ha PT Tag, sì, è un cazzo di gnomo, dei nomi di me è una delle caratteristiche fa il DJ razzista. Quindi DJ razzista? No, tu sei razzista. Ma il nome di me. Un cazzo di gnomo, sei razzista. No, raga, quasi mai metto degli altri animali, voglio dire delle altre razze nel dungeon. Ogni tanto ce n'è qualcuno, però ovviamente. No, in realtà lui è anche abbastanza figo. Comunque è uno gnomo. In quanto tale. No, vabbè, comunque. Comunque, a quanto pare, gli deve dei soldi a Taius. Per debiti di gioco. Debiti di gioco. E vi ha detto dove trovarlo. E comunque, insomma, avete capito dove trovarlo. Vi ci siete recati in questa taverna, diciamo, un po' imbucata. Al che avete parlato con questo PT Tag, che si è catta, ha fatto sì che si interessasse molto alla sua pietra. E praticamente... vi ha proposto di fare uno scambio. Praticamente vi darà dei soldi. E io lì non ho ben capito cosa vi dà in effetti. Cioè, sono arrivato a un punto in cui vi offriva tipo 150 monete d'oro per questa pietra e ve ne dava tipo 50 subito e 100 il giorno dopo. Però poi dopo Katta gli ha chiesto qualcos'altro e mi sa che tipo 15 delle monete d'oro gliele ha date in armi, una roba del genere. No, nessuna memoria. Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Il capodanno è stato troppo intenso. riascoltiamo. Beh, si può rinegoziare. Allora, io direi che facciamo così. Voi vi siete accordati su un prezzo complessivo di 100-150. Mm-hmm. E lui vi ha dato 50 monete d'oro. Le armi d'argento costano 100 in più. Sì, anche sì. Qua. Quindi troppo costoso. E vi ha dato due spade per più o meno 15 monete d'oro. Due spade così. In cambio della pietra. Due spade e 50 monete d'oro. E poi il giorno dopo vi deve portare 100 meno 15, 65 monete d'oro. E quanta era la somma che dovevamo recuperare? Questa è un'ottima domanda. Beh, ma la possiamo recuperare anche senza vendergli la pietra. No, è sempre c'è. Lui aveva chiesto di recuperare quanto più possibile. Che così dimostra il fatto che lui soldi li ha. Ma quant'è il debito? Lo dicevo all'inizio della puntata, però non me lo ricordo, non era una roba altissima, secondo me. Ma tu c'hai qualcosa scritto, no? No. Operazione di... Ah, ti vuoi ascoltare? Vabbè, adesso vediamo se Giulio lo recupera. Mi pareva che fosse non tanto, secondo me. Saranno sui 50-70 monete d'oro. Quindi volendo in realtà voi avete già recuperato qualcosa, volendo, cioè se non vi incontrate con lui potenzialmente potete dare quei soldi a Talius che vi sarebbe riconoscente. Oppure no. Fatto sta che poi c'è stata la parte diciamo principale della puntata, ovvero quello in cui Laz, o meglio Eric, è andato a cercare, grazie anche alle informazioni che ha ricevuto da PT Tag, questi personaggi a cui doveva consegnare il pacco che ha ricevuto a Jab. Pacco di Jab, sì. E praticamente hanno trovato in questo posto dove ha visto questo simbolo, che è il simbolo che c'era sul pacco, sul pacco, sì. Esatto, che è una sorta di clessidra con gufo. Esatto, con degli occhi di un gufo, questa roba qua. E è riuscito effettivamente a entrare in questo posto e a parlare con i collezionisti. Sono 2 mesi che non giocavamo. Nel frattempo gli altri sono andati a cercarlo e però non riuscivano a trovarlo. Cioè hanno visto che diciamo andava vicino a questa casa, ma poi non riuscivano a trovarlo fisicamente. E poi a un certo punto l'hanno visto ricomparire come da nulla quasi. E a quel punto Giulio ha fatto un vedere se c'era un incantesimo, esatto, e ha visto che c'era un incantesimo di illusione nell'area. Eric ha lasciato, se non sbaglio, le tuniche dai collezionisti. Sì, quello mi ricordo anch'io. Per fargliele esaminare. Uh-huh. E poi si è messo d'accordo che si rivedevano il giorno dopo. Nel frattempo ti hanno dato una spilletta. Mm-hmm. Per poterli rintracciare, sì. E che se diciamo la tocchi può far vedere anche il simbolo. In più praticamente vi siete messi d'accordo per cui tu quando andrai a nord gli farai più o meno da spia, se ho capito bene. Vi siete accordati? Dovevano spiegarla un po' sta roba, non ho capito che cosa dovevo cercargli. Cioè loro ti hanno detto che c'erano dei traffici sinistri e di indagare un po' sulla situazione. Sulla magia avevano detto sì, che c'era. Esatto, c'era un focolaio di magia potente che si stava in qualche modo risvegliando di diciamo, cercare informazioni a riguardo e poi di metterti in contatto con loro in qualche modo, eccetera. Mm-hmm. Questo è la tana dell'orso fondamentalmente. E poi ci siamo, direi. Con mi sembrava avessimo chiuso tipo così. Sì, diciamo, sì, abbiamo chiuso così. Tu poi il pacco l'avevi aperto. Però cioè l'aveva riparato lui. Sì, dentro ci avevi trovato delle... Carte nautiche. Sì, nautiche, sì. Geografiche, roba non particolarmente interessante, sembrava. Però te l'avevi trascritta tutta, nel dubbio. Mm-hmm. Però ti avevamo poi fatto capire che i documenti non... Cioè, quello che avevi visto fondamentalmente non era quello che c'era veramente scritto. Mm-hmm. O comunque non era poi così rilevante. E va bene, direi che torniamo qua e recuperiamo i nostri pistoleri mancanti. Uno non mi sembra interessato a essere recuperato. Uno è quello lì in schermo, è Philip. È vero che tu non l'hai mai conosciuto di fatto. È quello che dicevo. Io non ho idea di chi ti sia. Ti presento Philip. Come no? Scusa, eravamo quando sono arrivato al tavolo, c'era anche lui. La prima forse, ma sì. Secondo me la prima tu sei ancora Cabe, no? Io sono rimasto no. a Cabe. Che? Sì, sì, io sono rimasto a Cabe. Eri ancora Cabe. L'ultima mia presenza risale al... Stavate ipotizzando sì, c'era un ancora piano... lui. No. Okay. C'era ancora lui. Ok, i vostri personaggi si conoscono. Di fatto, certo, okay. Sceo e Fili, cioè Sceo e Salla come Filip e Sirro non hanno mai interagito come con tutti i okay. personaggi. Però tu avevi anche il coraggio di salire del livello oggi. Certo. Come, vabbè, tu sei come personaggi umano... avete interagito anche abbastanza in realtà. Sì, esatto. Perché per esempio quando tipo siete arrivati al culto, mm-hmm. tipo tutti eri perso, non riuscivano a trovarti. E a un certo punto tipo sì, esatto, Filippo esatto. ha avuto paura, stava scappando e ti ha trovato e ti ha detto no, dobbiamo scappare assolutamente. Okay. E tu gli fai, vabbè, se era giusto dici così, ok. Ma sei un umano? Sono un umano, sì. Ok, in termini di gioco sei? Classe, giusto per farmi vedere. Un umano della Saradovia del sud. Bravo. Okay. Las, mi fai un piacere, mi vai a prendere una birra. In come sei equipaggiato, cosa vedo davanti a me? Ho una domanda. Come punti ferite roba, dopo il coso non mi sono mai fermato, o sì? No, siete direi full tutti. Ah, full? Sì. Ok. Beh, avete viaggiato, non avete combattuto, quindi siete full. Ok. E va bene, direi che a questo punto si va al giorno dopo. Mi sa che dovreste stare qua, se non sbaglio, 3-4 giorni. Comunque adesso vediamo. Cazzo, Salla, se non recuperiamo i punti ferita in 2 mesi, non lo so. Mesi? 2 mesi che non giochiamo? Ah, no. Anche questo è vero. D'accordo, allora... Vorrei fare, allora, mi siete di nuovo alla locanda tutti lì, fondamentalmente. Allora, locanda quale? Quella bella o quella... Sì, quella bella, diciamo, dove alloggiate. E bella, insomma. Cioè, la locanda. Quella buona o quella... Sì, alloggio non ce lo danno... Sì, no, non dovete pagare. Quindi puoi parlare col capitano se c'è del suo posto che ti ha dato lì. Mi sa che ci ha dato l'ognome. Sto cercando il mio oggetto, tutto bene. Mi ha dato qualcosa. A parte il tentativo di vendita. Che domani gli daremo tu non lo sai. La fine sei riuscito a convincerlo. Mi ha detto che hanno promessa. Tentato di venderlo. Ah, ma si parecchio tempo fa. Allora chiedo a Traius. Mi spiego la situazione. Vabbè, in realtà lui se vuole i soldi ce li ha. E siamo riusciti fingendo ci interessate a vendergli una fiera preziosa a farci dare un anticipo e dimmi tu che cosa vuoi fare, nel senso noi abbiamo questo appuntamento, se vuoi presentarci direttamente anche insieme a noi e dirgli guarda questi soldi sono i miei e mo me li tengo. Ma ragazzi, direi che vi siete comportati molto bene. Una domanda, scusa. Non avevo dubbi. Che nel riassunto, magari è scontato, ma voi vi siete presentati come siamo qui per riscuotere i soldi di... No. Questo non gliel'avete detto? Ok. Altrimenti col cazzo che c'è lì. Infatti, no, quello mi chiedevo. Ok, scusa. Quindi se lui vuole, domani può andare lì e dirgli, sorpresone. Quello il tuo, ok. Così magari poi... Beh, lui gli può rispondere, però, io ho una pietra che vale di più. No, la pietra non è andata. No, gliela dovevi dare per avere l'anticipo. Ma che ha detto che questo anticipo ce l'ha dato così sulla fiducia. Mi ha appena detto così. Sì. Io non mi ricordo, sinceramente. Io, ragazzi, penso che possiamo fare un accordo di questo tipo. Se per voi ok. Il mio debito è un po' superiore a queste 50 monete d'oro, ma mi ritengo soddisfatto del rientrare di queste 50 monete d'oro. Penso che potrebbe essere magari per voi interessante eventualmente recuperare il resto della cifra senza perdere quello che avreste scambiato. Come suggerisci di fare? Direi che Io personalmente, lo sapete, non mi piace sporcarmi le mani, perché comunque insomma la comunità mi vede come una persona importante, non vorrei. Però ovviamente doveste voi incontrarvi con questo Piti in una determinata zona e insomma dover aver bisogno di un certo tranquillità nel poter operare le vostre scelte, potrei insomma comunque chiedere a qualche ragazzo, diciamo, di tenervi lontani i vari passanti e insomma chiudere eventuali vie di fuga. Dall'alto dei miei ovviamente 8 di intelligenza. Ovviamente, ovviamente quello che avevo promesso per quanto riguarda i vantaggi del vostro viaggio, ovviamente saranno assolutamente pagati. È un uomo d'onore. quello che mi preoccupa è avere, creare in questo modo una potenziale inimicizia tra noi e questi collezionisti, tale per cui potrebbe... Fermo un attimo. Piti non è dei collezionisti. Non è dei collezionisti. No, lui non è dei collezionisti. Ha dato informazioni ai collezionisti perché sa varie cose. Non fa parte dei collezionisti. No, non fa parte. Almeno così ha detto lui. Cioè lui ha detto che non li conosce, però sa chi sono, più o meno. Cioè sa più o meno chi sono. Comunque, in generale, dato che non mi sembra... una persona, diciamo, membro della corte del re, ma uno scagnozzo di un qualche trafficante. Chi? Piti? Sì. È scagnozzo di se stesso, fondamentalmente. L'avete visto, una serpe infida che va estirpata da questa terra. Che ha molte conoscenze, molti contatti. Sì, sicuramente, ha anche tanti creditori. Una persona del genere non vorrei che di trovarla un domani e mettermi i bastoni tra le ruote. Ma andiamo in nave, mica in carrozza. Per questo, ragazzi, finché sarete con me posso tranquillizzarvi che non avrete problemi. Tenete presente che noi tra qualche giorno salperemo e quindi Piti tendenzialmente non lo vedrete più. Ripeto, fate di Piti ciò che volete, insomma. Personalmente non te lo vuol dire, ma doveste insomma gli insegneremo le buone maniere del doveste avere del bisogno rispettare i debiti doveste debiti avere bisogno debiti. Di qualche cosa sapete bene che potete contare su di me in questo senso. Va bene, l'incontro è il giorno dopo nel posto tra l'Italia. L'incontro in realtà ha detto lui che si fa strasentire. Ok. Quindi cosa fate? Gli dai 50 monete d'oro e dici ok, e poi lo contatti e gli chiedi, gli dici prima. Quando ci troveremo. Cioè, quindi il resto ha detto che a lui non interessa più, possiamo averli come... Cioè lui ha detto che così è contento, ha recuperato quasi tutto, e più di quello che sperava, e quindi diciamo il resto tra virgolette è vostro e lui vi dà diciamo supporto a livello di tenervi al riparo, doveste diciamo ci dai carta bianca? Sì, cioè a me io l'ho quasi finita, avendo scritto tutto. Bravissimo Nas. E vi dà diciamo protezione, fondamentalmente protezione, perché eventualmente insomma comunque se ci si trova un cadavere potrebbe non essere bellissimo, lui fa in modo che insomma, posso cerca di aiutare, prendere in disparte, cioè possiamo parlare un attimo. Per me potete anche essere già d'accordo così, come volete voi. No, posso chiedere a Taius se possiamo un attimo parlare fra di noi, confrontarci e poi gli risponderemo. Un istante soltanto, ci allontaniamo. Sì, certo ragazzi, come preferite. A me personalmente, cioè, per me potremmo anche essere a posto così. Cioè, cosa ci guadagniamo fondamentalmente? Per 50 monete d'oro forse meno, vale la pena? Forse no, era solo per insegnare a The Punch. Esatto, a uno scorretto giocatore d'azzardo, giocatore di disonoratore di deboli, di debiti, le buone maniere, ma probabilmente non sono di casa in queste terre. Non so, però non ci conviene tenere, e in particolare tu in questa zona, in questi mari, tenere un profilo basso. Ho scoperto qualcosa, Giulio. Sono al punto, solo che Katta ha chiesto quanto ti dobbiamo recuperare, tipo 2 minuti fa, e sono 2 minuti e stai girando attorno. Grande. È vero, perché lui è il personaggio, uno dei personaggi che corrono. Meno cerchiamo rogne, meglio. In sostanza è quello che volevo dire io. Cioè, ci offrisse qualcosa di più lui stesso, uno ci può anche fare un pensiero, ma sinceramente... Se va bene, fra 4-5 giorni noi di questo capitano non sentiremo mai più parlare, non lo vedremo mai più. Cioè no, in realtà questo il capitano continuerete a vederlo per un bel po'. No, però... Cioè, quello che voglio dire io, lui ci sta dando un passaggio alla colonia. Una volta alla colonia lui non ci potrà più fisicamente o materialmente aiutare in altro, perché andrà via. Quindi non so tutta questa protezione, questo aiuto che ci può dare, quanto valga la pena essere sotto la sua ala o meno. Vabbè, noi il favore li abbiamo già fatto. No, lui è già contento, lui diciamo semplicemente gli dice, cioè lui vorrebbe quei 50. Cioè quindi se noi andiamo a fare... E lui vi dice, tra parentesi, il resto tenetelo pure, sapendo che il resto ve lo dovete prendere però fondamentalmente. Cioè lui non c'ha tra le righe chiesto di cioè, farlo. Cioè lui, nel senso, questo che non ho... lui vi ha detto, per me va bene... 65 monete d'oro. Quanto? 65 monete d'oro. Perfetto, infatti è per quello che volevi 15. Allora, domanda. Tenga il resto. Se vuoi faccio un tiro su percepire intenzioni, insomma, su... su intuizione, nel senso, lui ci sta chiedendo tra le righe di farlo. Grazie. Perché lo vorrebbe o veramente ci sta dicendo fate quello che volete, non mi interessa, perché allora, non vorrei che noi decidiamo di non contento, fare niente. Lui, se gli date 50 monete d'oro è no, contento, ok, così. Quelle gliele diamo, però dico, non vorrei che noi non facciamo questo gesto di farla pagare a questo tizio e lui poi ci vede male, come dei codardi, come dei, capito? O veramente non gliene frega niente. No, lui, cioè nel senso, lui è contento così e no, vede codardi, cioè nel senso, sa benissimo che, cioè, ed è per questo che vi ha chiesto a voi, fondamentalmente, che se doveste affrontare il Piti lo massacrate. No, avevo letto tra le righe, finite il lavoro, avevo letto tra le righe così io. No, nel senso che lui vi dice finite il lavoro per avere qualcosa in più voi. Però... Cioè lui dice, nel senso, io dovrei avere 65, mi sta bene 50, il resto è vostro. Se avete bisogno di protezione, barra dei pali, barra aiuto per recuperare il resto e tenervelo, okay. Faccio intervenire i miei ragazzi, diciamo, come pali. No, altrimenti per lui posto così. Okay. Lui è posto così, cioè sta anche a voi, non gli interessa... più di tanto che venga, cioè chiaramente non gli dispiace, è evidente, cioè se voi doveste andare lì e conciarlo per un commento. No, non l'ho visto. Ah, diretta. Sì. Era per Katta. Aspetta. Katta, che hai tenuto il punteggio di caratteristica della tua vita vera. Ah, sì, perché l'8 in intelligenza. Ok, la mia l'avevo frainteso io. Avevo capito che ce l'avessi in un certo senso chiesto. No, di farlo. Cioè è ovvio che non gli dispiace. È evidente che non gli dispiace. Se vuoi, no, per me l'importante morte, è che non sarebbe. Per me l'importante è che in caso contrario, non, tra virgolette, non se la prenda. Ecco. No, cioè, davvero quello che avete capito voi. Alla fine, il PT lì fondamentalmente sta un po' sul cazzo a tutti, ma è anche utile un po' a tutti. Mm-hmm. No, ho capito. Quindi, forse anche a lui gli può essere utile per certe cose. Però, sicuramente, cioè, lui inizialmente vi ha chiesto fondamentalmente di fare un recupero crediti. Anche picchiandolo, sì. Se lo trovava. Sì, sì. Cioè, allora, questo era evidente. Io dico sinceramente agli altri, per me, come ha detto poi Filippo, giusto? Chiama Filippo. Sì. Come ha detto Phil, meno rogne ci andiamo a cercare, forse meglio è. Non... Personalmente vorrei attirare il meno possibile l'attenzione di chiunque. Bene, mi affido alla sua saggezza, Fra Sirron. Fra? Vabbè, siamo buoni. Sì, ma Fra è bruttissimo. Fra inteso bro. Esatto, bravo. Bro, bro Sirron. Fra Tac, cioè Fra Sirron. Giusto. Io la vedo così. Ora diamo giustamente le 50 monete d'oro a lui, ce lo siamo fatto amico, comunque in ogni caso se mai avremo bisogno di qualcosa credo ci metterebbe una buona parola per noi, in ogni caso, lui a questo punto. Però non andrei oltre. Allora, voi cosa dite? Proseguiamo. Cioè, anche perché se è vero che questo tizio è indebitato, andiamo veramente a rubare uno che magari in tasca ha 100 monete d'oro e sinceramente non so i vostri, come si dice, i vostri le vostre spinte morali cosa dicono, ma sinceramente io non mi sento penso a farlo. Oh, prendi, cioè alla fine è uno che si è fatto debiti in giro, non è uno che fa del male alle persone alla fine. Questo non puoi sapere. Beh, da come c'è stato. La gente è fallita, morta. Vabbè, tanto se lo becchiamo lo uccidiamo, lo sappiamo già, quindi andiamo pure avanti. Personalmente, io sarei a posto così e lo lascerei stare. Cioè, magari concludiamo i nostri affari se ci conviene, ma per il resto la finirei qui. Quindi, che fate? Gli sganciate questi cinquantelli? Beh, queste sì, comunque sono sue, fino a prova contraria. Poi, ben venga, se facendo affari capita l'occasione di guadagnarci qualcosa, bene, ma andare là per usare violenza per qualche spicciolo non ne vedo il senso. Certo, se poi vediamo che è seduto su uno scrigno pieno di monete d'oro, certo, sono il primo a scagliare. Più che altro pugno, quando però ci arriverà addosso nel sonno con un coltello e ce lo punterà al... Beh, a me è successo, no, era un altro PC, scusa. No, gli diremo che un certo Tychus ce li ha presi dicendo che erano suoi. Tycoons. Questo può essere un'idea, come può essere un'idea comunque concludere un buon affare con lui in modo che non abbia modo di rifarsi su di noi. Vabbè, ma è lo stesso. No, andiamo avanti. Non ho intanto di dare via la pietra. No, neanche io. Troveremo il modo di... Molto bene. Potremmo anche non presentarci a nessun appuntamento. Infatti è quello che faremo. Ottimo. Va bene, quindi, lui, torniamo da lui e prendiamo le monete, ovviamente. Vi ringrazia, dice... Grazie. Siete davvero persone di valore, oltre che molto competenti. E stasera vorrei anche che... Anche intelligenti, aggiungerei. E anche intelligenti. Stasera vorrei che voi partecipaste a una festa. Perché non vedo perché non celebrare, insomma. Piena di baldracche. Assolutamente sì. La festa sarà sulla nave e diciamo che voi sarete sicuramente ospiti più che graditi, quasi direi d'onore, se verrete. Accettiamo di buon grado. Assolutamente sì. Molto volentieri. Anche i più anziani possono trovare conforto. Ma lui è un prete. E i più piccoli possono infilarsi in zone che non avrebbero mai immaginato. Non convendono a una compagnia del... Non capisco. Non intendo. Va bene. Adesso era mattina, giusto? No, sono vecchio. Un po' le cose non funzionano sì, tanto bene. Anche i più sociali possono trovare compagnia. Capitano Lottaius si congeda da voi. Quindi, scusate, come eravate arrivati? Si congeda da voi e dice all'oste di portargli un pranzo luculiano. Per sapere del dovere l'appuntamento e noi lo ignoriamo. Quindi lui viene da noi a dirci l'appuntamento sarà... È pranzo. Manderà un messaggero. Ah, è ora di pranzo. Sì. Ah, ok. Ok. Tu eri andato là la notte, giusto, da loro? Infatti volevo, sì, è per quello che devo dire. O il giorno dopo, non mi ricordo. Il giorno dopo, però essendo andato di notte, immagino la notte dopo. Non lo so in realtà, sai che forse ci sei andato il pomeriggio? Era notte, era buio. No, era buio. Perché vedevo la lucina, dicevi. Era buio. All'inizio, ma anche dopo? Sì, perché comunque ci ho messo tipo un'oretta a copiare la roba e ero tornato la notte stessa. Ok. Va bene. Che cosa fate? Volete fare qualcos'altro? Quindi abbiamo qualche ora. Beh, a questo punto, visto che hai dato l'imbeccata, io faccio un giro per la città. Hai detto che gli albatros si erano già... Allora? Qui ci sono altri uccelli. L'imbeccata, cioè? Cosa intendi? Ha detto giorno, notte, non lo so, mi faccio un giro per la città. Va bene. Vuoi cercare qualcosa in particolare? Non so, noi... qualcosa in particolare no, ripasso dal vicolo dell'altra sera e eventualmente potremmo fare e cercare informazioni su quello che effettivamente questo è il mio ti porti in zona lì per vedere sì. Ma non c'è perso eventualmente poter pensare di no. Se vuoi, diciamo, vedi il segnale eventualmente per provare a entrare, se vuoi. Se la spilla tipo si illumina quando sono in zona, non so. Ecco, l'unico consiglio che do io al gruppo, magari teniamo gli occhi ben aperti in questi giorni finché siamo cavolo, qui. Abbiamo dormito adesso. È vero. No, perché magari sogniamo effettivamente, le voci girano, magari in qualche modo vieni a sapere. Allora le orecchie aperte, non gli occhi aperti. Se le voci girano non le vedi le voci. Di cosa devono dire? Io sono cieco, me l'ha sempre detto lui. Tutti ciechi e anche un po' sordi, ma sordo però. Sì. Esatto. cioè l'unica cosa, esatto, stiamo d'occhio. Stiamo d'occhio, con occhio e orecchie aperte. Stiamo d'occhio. Stiamo d'occhio. Stiamo d'occhio. Ma aspetta, prendo l'occhio di un passante. E col tatto acceso. Stiamo con i cinque sensi ben allertati perché magari sto gnomo per tutto il gusto. No, magari lo gnomo si rifà su di noi, comunque. Cornavamo appuntamento con lo gnomo. Lui ci viene, ci ha detto che ci fa sapere dove sarà e quando sarà. Perfetto. Però non vorrei che viene a sapere che abbiamo preso i soldi per conto di, hai capito? Meglio sarebbe, ci faciliterebbe molto le cose. Vabbè, tu hai detto che vai a fare un giro? Sì. Ce lo dici o te ne vai? Vado a fare un giro. Sì, lo dico, vado. Okay. Sì, sì. Gli altri cosa fanno? Lo dico, meglio non separarci e lo segui. Ti fai seguire? Boh, sì. Boh, a questo punto è dopo pranzo, la sera abbiamo la festa, ci sta, ci facciamo un giro tutti. D'accordo. Non lo so, io sì, mi aggrego, tanto non ho niente da fare. Io mi ritiro in preghiera. In preghiera. No, io vengo con voi. Preghi piangendo per tutte quelle povere donzelle che vengono. Non proprio. Ah no. Non sei contro in teoria tutte queste cose, tutti questi peccati. Sei un prete? Sì, il mio dio è il dio della tempesta, cioè non chi se ne frega. Non della tempesta ormonale, però. No, ah, però sì, non gli frega, cioè il dio della, è un dio della distruzione, cioè cosa vuoi che gli interessa? Ok. Cerchi di separarti da loro per andare lì o no? Avevo come idea di cercare di separarmi. No, vuol dire castità. Ok, va bene allora. Se no, no. Cioè. Se vedo come l'altra volta sento. Hai detto che sentivo bruciore. Se si sente la spilla che si accende. Un prete di Zeus. Non è che un prete di Zeus. Anzi, Zeus. Cerco di separarmi, sì. Ok. No, se sei con loro, effettivamente non. Senti nulla. Ok. E d'accordo, quindi passiamo la sera fondamentalmente. Mm-hmm. Ok. E la sera andate appunto dalla nave delle Baldracche, immagino tutti? No. Ok, rimango fuori. Perché non vieni con noi? Sei invitato alla tu festa. Tu sei arrivato adesso dopo due mesi, cosa cerchi? Vabbè, cioè è una cosa normale. No, cioè, andiamo tutti sera, là. No, io non vengo. Non mi sono divertito molto. Rimarrò in città. Che risposta? Anche ieri sera avevamo invitato alla festa. Ah, sì? No. Era oggi pomeriggio il pranzo. No. Oggi a pranzo non mi sono divertito molto. Ma cosa c'entra? Vabbè, come vuoi. Ciao. Io non ci sono. Non posso dire niente. Ah, sono ancora in preghiera. Mamma mia, quanto dovrei? Ma magari dormo, cioè sono vecchio. Ok. Tu vieni? Si fa il long rest per metterlo da parte dell'incantesimo. No. Io sì, certo che vengo. Doppio long rest. Quindi chi ci sono? Io, Kai. È tipo il Kaioken. Loro tre. Tu stai in preghiera anche la notte? O vai con loro? Boh, se mi accorgo dell'orario, come va? Tira un dado. Se mi accorgo dell'orario. In che senso? Se mi sono sveglia. Un tiro di percezione. Mi sono perso in preghiera. Tardi. Due. No. Sei attualmente riempito delle tue preghiere. Tra l'altro, scusa, preghi te stesso. Certo. Vabbè. Oh, come sono bello. Dai che ce l'ho. Ottime queste preghiere, grazie. È più una meditazione. Va bene, sei totalmente immerso nella tua meditazione. Qualunque cosa possa succedere attorno a te non ti può scalfire in questo momento. Tipo una bomba nucleare cade a 100 metri da te, ma tu sei troppo preso. Las, sì, se volevi sparare una bronza in faccia a Giulio, questo è il momento. L'aroma di vino. Che bello. No, io non lo farei, no, mai. Sì. Io non lo farei mai. Va bene. Sono quindi, cieco e sordo, non ho neanche l'ho fatto. Quindi voi tre ne avete patracche e Laz va di là. Parte tarda della serata comunque, però... No, beh, in realtà... Quindi sono già tutti ubriachi. No, cioè adesso c'è... Forse come veniva? Veniva tutta gente ubriaca qui per rubare i borselli e cose varie. Allora, posso sempre rubarli a voi. Quando sarà il momento. Allora, chi trova un amico trova un tesoro. È una festa a tema. A ti tema, prego, assolutamente. Sì, che bello. E io scrivo un saggio breve. E il tema è il trash più clamoroso. No, è chiaramente l'alcol scorre come a fiumi. È diventato bravo, eh. L'alcol scorre a fiumi. Il cibo abbondante, non sempre necessariamente buono, ma comunque abbondante, e soprattutto donne, la presenza, diciamo, di quindi questa festa è una super orgia di gruppo, dico. Ma a voi viene concesso più o meno di fare quello che vi pare, vi dice di non preoccuparvi e richiedere in giro, vi dà qualche consiglio il capitano, a chi chiedere, eccetera. È tutto gratis. Per voi è tutto gratis. Culo, accanto, per voi è assolutamente gratis. Quello che stavo pensando di fare una scena gay. Di più, voi arrivate. Di più, no, di non più. Lo so. Voi arrivate e c'è una fila di persone che vogliono entrare. E voi mi mettete in c'è fila. C'è il butta fuori che fai tipo. Voi mi mettete in fila e a un certo punto voi tre venite con me. E passate tutta la fila con la gente che vi insulta. Boh, e vi fanno entrare, esatto. E il capitano vivi, che è già un po' alticcio. Il capitano avrà il tavolo. E vi dice di ragazzi, voi fate quello che volete. Siete i miei ospiti, assolutamente. E quindi potete fare un po' quello che vi pare. Se volete potete anche descriverlo. Vabbè, intanto nei dettagli. Ma attenzione alla minuzia che userete. Vabbè, potrebbe portarvi il grado di separazione tra l'inspiration e il disgusto. Può essere molto labile in questo tipo di situazione. Vabbè, intanto vabbè, ceno almeno, ceniamo intanto. Al tavolo con lui parliamo. Sì, beh, non c'è un cibo, c'è cibo, alcol. È tutto libero. A una è certa. Tutto... Cioè, nel senso, probabilmente molto tardi. Sei assorto. No, ho capito, molto tardi. No, certo. Perdi la nave per andare là. Passano tipo svegli quel tempo che passa. Tempeste, la colonia sperduta. Dopo civiltà che crescono attorno a Giulio. E crescono. Dopo 100 anni, dico. Mi sono perso qualcosa. Cosa è successo? Ma cosa stavo facendo? Allora, certo ora dicevi? No, una certa ora mi propingo anch'io. Arriverò tardissimo. Ma... Tu sei quello che è tipo Ema, che arriva al... Ciao Ema. Che arriva alla fine, gli ciao, altri tutti ubriachi. Sicuro che esista questo. Gli altri tutti ubriachi e arrivi tu nel finale. Ci sta. Ecco, classico. Non c'è Ema che ha commentato. No, però c'è Alessandro Jimmy Busghi che guarda la trasmissione. Mamma mia, ciao Ale, ci vediamo domani. Torno a lavorare con te. Tycoon Cendregos ha commentato Tycoon Cendregos. Tycoon Cendregos ha commentato Tycoon Cendregos. Sì, mezzo ha commentato. Se ti fa schifo, scemo e... Ah, è come creare un logo e comprarci gli oggetti con quel logo, è la stessa cosa. Sì! Potere! Adesso commento da Reggie di R Tycoon Cendregos. Bravo. È vero, me lo condividi? Che cos'è un... Commentiamo anche come Vaps, cioè che ci ok. Allora. Vabbè, ovviamente se c'è della musica mi metterò a ballare con qualche donzella. Sì. Ci sarà qualcuno che suona. Sì, tu sei un pessimo ballerino, però. Ovvio. Che cioè, la tasca è abbastanza sodato, però non sai i passi. Però sì, ti viene insegnato. Sono tutti ubriachi. Assolutamente. Che strumenti ci sono nella banda? Nell'orchestra. Perché questa domanda? Le trombe vanno per la maggiore. E no, beh, c'è gente che suona, ma diciamo che la musica non è il piacere più importante. Insomma, c'è qualche liuto, qualche cantante, così. Che c'è qualcuno che soprattutto c'è si improvvisa. No, no, Cabe non c'è. Non c'è la qualità di Cabe, purtroppo. C'è molta gente ubriaca che si improvvisa, sicuramente cantanti piuttosto che musicisti di alto livello, ma chiaramente musiche non lo so. Simili, ma se voi avete bevuto abbastanza di questo ve ne rendete fino a un certo punto. Esatto, quindi direi che posso prendere, avvicinare il primo tizio che suona un liuto, prenderlo, riempirlo di birra e bere da quello. Oddio! Assolutamente, ci può stare. Fammi una prova. Di prendere un liuto e riempirlo di birra, 13. Va bene, fai questa mossa creando scalpore di quello che prende il liuto e grande giubilo da parte invece dei tuoi quelli di fianco. Il tipo che suonava si incazza perché ti comincia a dire: oh, sai quanto costa? No, non te lo dico, no, non lo vuoi sapere. Oh, sai quanto costa? Anch'io voglio bene. No, no, non si crede. Non ha colto, non ha colto. Dopo glielo vedo. Non ha colto. Catta. Lo sta facendo, è impegnatissimo. E, sta disegnando. Scrivendo. No, sto cercando di condividere sta cazzo di cosa, sennò Vez poi si incazza. Bravo, Digno. E a questa festa c'è anche un personaggio particolare. Tirami un dado con un terrasco. Taggio. Ma svantaggio. Non so, ubriaco, conoscenza. Qualche tipo di conoscenza. Bravo. Conoscenze non ci sono più, se vuoi io aggiungo la mia intelligenza. Meno 25. Però passo di punteggio. Che è un grosso meno 1, però anche 4 di insight. No, va bene, comunque è un 18. E riconosci uno per essere... l'hai già visto altre volte. Un pirata di... di vecchia data, assolutamente sì. Il suo nome è Garruken. Garruken. E non è esattamente della tua cricca, però diciamo di comunque di quelle isole lì, quindi tu lo conosci in qualche modo. Cioè soprattutto di fama, però l'hai già visto altre volte, quindi sei in grado di riconoscerlo. È da solo? Ha il suo pappagallo un po' smorto, rosso. Quello per farsi la pipì? No, sì, assolutamente. E lo prende la notte. Ed è lì che beve come un dannato, fondamentalmente. Toccando ogni tanto qualche tetta di passaggio. Ecco, le mie intenzioni sono più o meno quelle. Mentre ballo, ovviamente. Vabbè, ma in realtà è quello. Lui. Sembra che ne abbia riconosciuto. In questo momento sta borbottando, sembra quasi in modo inconcludente. Ok. Va bene. Tra i fumi dell'alcol. Allora, mi avvicino con nonchalance, tipo barcollando per troppo alcol ingerito. E rovino di fianco a lui. Oh, che figata, io adesso arrivo alla festa e inizio a guarire tutti dalla smornia. Che brutta persona. Oppure potresti approfittare della loro del loro non essere troppo conci per convertirli. Credimi, sono il tuo dio. Tipo mentre sono ubriachi, potrebbe funzionare. No, mi divertendo. Però vado ad attaccare il bottone con le solite frasi. Questo è veleno. Ah, che bella festa, era da anni che non mi divertivo così. E vabbè. Di certo c'è che dice vorrei di ringraziarmi così riprendono qui a sud, ma a nord per chi ha quello frio, ok, ma chi deve prendere poi perché open bar, esatto. Poi mi metto a vendere alcolici. Tu sei stato a nord, ma non mi dire. Vuoi questa... come si chiama il tuo, non mi ricordo mai, il vecchio capitano? No, è il tuo nemico. Krakenberg. Release the Kraken. Ma non mi dire, uno come te non durerebbe un quarto d'ora là fuori. Non sai di cosa parli, novellino. Veramente non sai di cosa parli. Purtroppo adesso quello schifoso ha il controllo di tutta questa zona. il corsaro di ghiaccio si fa chiamare. Pensa a te, come siamo ridotti a questo mondo. Ma prima o poi gliela farò vedere. Darò una lezione che si ricorderà. Nessuno la fa a Garruken, nessuno. Ricordalo, novellino, ricordalo. Tu che cosa vorresti fare, scusa? Grande mago. Io ho attraversato mari e monti per avere... Come hai fatto con i monti della nave? Appunto. Per avere il privilegio, ecco, sarà facile. L'onore, anzi l'onere. Va bene che ubriaco, ma... L'onere. Che cazzo di lingua è? Onere. L'onere. L'onirico. Forse anche quello. Per mandare... Condividere l'onere. Padron Frodo. Per spedire quell'avanzo di Bagnarola in fondo a scandagliare i fondali con una palla di cannone. Ci sono i cannoni? No, direi di no. Con un sasso attaccato al collo. Ok. Cioè, si è lì lì per vederli, però no, credo ancora di no. Sono i prototipi. Sono i prototipi. Sì, no, comunque no, non ci sono i cannoni. Di monti ne ho visti pochi, ma di mari ne ho visti tanti. E di novellini come te che se la tiravano ne ho visti troppi. Ma dimmi, forse conosci tu questo... questo Krakenberg, questo terrore del nord. Vorrei poterlo non avere mai incontrato. Sia maledetto il giorno che le nostre strade si sono incrociate. Le nostre rotte. Non sei fuori. Così, così, bruciamo tutto. Egli mi ha strappato tutto ciò che mi era caro. Su questa terra, anzi su questo mare. Una moffetta di mare, quindi tu pure. Poco moffetta di mare. Racconta la tua storia. Non sono ancora abbastanza ubriaco per non ascoltarla, ma forse abbastanza per non ricordarla. È molto semplice la mia storia. Beh. E forse inspiration. Look like inspiration. Funziona sempre così. Si fa un buon bottino, il capitano decide come spartirlo, al secondo in comando non va bene e quindi si estraggono le lame. E quella volta decisi di rispettare l'onore della ciurma e questa scelta mi costò caro. Difesi il mio capitano come vuole il codice dei pirati e questo mi costò l'ammaraggio. Arrivai in un'isola deserta dove non c'era nulla di cui... Capitano Jack Sparrow. Mi sono messo a mollo per due giorni in modo che gli animali acquatici si abituassero alla mia presenza. E a quel punto lo vedi. Lui da tanto. Cosa vedo? Lo vedi. Lo vedi. Vedo cosa? Lo vedetti. Un narro bianco. Ah no, ok. Che venne verso di me. Io mi ci appoggiai sopra e mi portò a un porto sicuro. Da quel giorno stetti, pronunciai il giuramento che mi sarei vendicato e che i miei passi sarebbero stati guidati dalla immensa saggezza e sicura volontà di... Come si chiama lui? Duranac, tipo. se non sbaglio. Vento, Murak. Murak. E che non avrei avuto pace finché l'onore e il codice dei pirati, l'onirico, sarebbero stati vendicati. Il codice dei pirati. Sei, sai, per un momento ho pensato quasi che tu fossi un vero pirata, ma mi rendo conto adesso che sei un buon cantastorie, indubbiamente. Bella Cape. Certo, non quanto che. Il codice dei pirati è per i deboli. Solo il bottino, quello che conta. Ma apprezzo il tuo racconto. Di uomini di valore in mare non se ne vedono poi così spesso di questi tempi. Un tempo da queste parti era il mio territorio. Ero io che comandavo qua. E che cosa è successo? Sai, un conto è il mare, e lì non c'è nessuno che possa competere con Garuk, il terrore dei mari infernali a 9 code. Ma ovviamente non c'è solo quello al mondo. A volte, se hai degli amici potenti, questo ti può aiutare. Che genere di amici? Del tipo che ti permettono di avere una flotta più grande della tua. E spazzarti via da quello che avevi conquistato con tanti anni di sudore. Tipo in questo momento sono. Aspetta, devo fare qualcosa stasera. Si è accordato con l'impero. L'impero? Hai visto troppo Star Wars? Devo ricordare qualcosa. Come si. Sarabovia non è l'impero. È un regno. Ok, si è accordato col regno. Si è venduto. Al loro soldo. Non credo. Come è possibile? Chi altro avrebbe interesse in queste terre desolate, sperdute? Troppa gente, a quanto pare, ultimamente ha tanti interessi. Quanto tanta gente ha interessi in una zona, ovviamente c'è anche più. La banca si arricchisce. C'è anche più possibilità di fare profitto, ma questo ovviamente. Quanto mi mancano i miei personaggi che cercano di fondare banche. Ma questo ovviamente porta altre cose. Gli interessi qui sono molteplici. Ma vedi, è vero, ho sputato sul codice prima, ma non tutto quello che dice il codice è sbagliato. E questo corsaro di neve. Il problema è che è difficile capirlo perché è scritto in codice. Questo corsaro di neve non ha più pari idea di cosa sia. E vabbè. Va fermato. Vabbè. Possiamo fare una rubrica, tipo. Una rubrica l'altro una volta a settimana. Sì, esatto. Oppure gli highlights di Laz, tipo. Esatto, secondo me si sta un taglio di video con esatto. I tagli dove con tipo poi soprattutto dopo le facce tipo nostre. Che è la metà della puntata, vuoi dire? Vecchio mio, ti giuro solennemente che un giorno metterò la tua fine al suo dominio. Vorrei crederti. Qual è il tuo nome, novellino? Io sono Quake. Quakeheart. Di dove sei, novellino? Sembri non lontano da dove sono cresciuto io. Io ho sentito parlare di te, Garuken. Non. Tutti hanno sentito parlare di Garuken. Io no, ma non ci sono. Sì, battevamo le stesse rocce. Sei zitto, basta. No, questa voglio sapere. Cos'è che ha detto sto giro? Ci stiamo immaginando tutte e due. Non riesce neanche a dire. Tutte e due delle ragazze rotte in qualche modo. Battevamo la stessa strada. Non riesce a dirla, cosa fa? Vabbè, dopo dai, quando non lo caghiamo. No, adesso fa. Troppa pressione. Non ce la fa. Troppi ricordi. E... vabbè, dai. Che cosa fai qua, Quake? Perché sei venuto qua al nord? Forse per unirti a Krakenberg? Se per unirmi intendi unire il mio acciaio al tessuto del suo cuore e passarlo da parte a parte, allora sì. Arr, queste sono parole da vero pirata! Portatemi da bere! Hai detto bene. E allora... cioè questa scusate, questa è la conversazione che loro vedono, ma la verità è che sono due. Esatto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vado a prendere un'altra birra. Grazie. Ah, novellino. Sì, bisognerebbe trovare un modo di distruggerlo, ma non è semplice. Dove sei? Tu sei in questa colonia, che cosa fai qua? Siamo diretti a nord. A nord. Sempre più vicino, sempre all'interno della tana del lupo. Io in questo momento sento il mio coraggio vacillare. Quel verme ha una flotta gigantesca e un esercito di tagliagola ai suoi ordini. È così. E noi abbiamo un Hulk. Esatto. Abbiamo un vecchio che prega. Lui è cuore, uno che parla tutto stupido, uno che scappa, è un finto monaco. È finto. La situazione sembra disperata. Effettivamente, ah. Scusa, come monaco non hai un codice. Cioè stai lì che ti ubriachi, danzi, tocchi le tette. Magari è un monaco trappista. Ma tu sei un prete, cosa vuoi? Sei un prete che hai appena detto che sei per la tempesta ormonale, quindi basta. Sì! A me, puttani! Ma grazie alla dillo che sono il tuo dio, dillo che sono il tuo dio! Noi prevarremo, me lo sento. Ho un grande bastone qua e anche oh, questo. Non è vero. Quakert, servirebbe uno come te nella mia ciurma. Quindi andrai a nord, Tana dell'Orso, forse sì. Anche più a nord, per cercarlo. Magari oh. Per trovarlo, prendere quel suo freddo cuore. Ho imparato dai miei sbagli. E non mi getterò in maniera incosciente, tasterò il terreno, guarderò com'è la situazione, pianificherò il mio attacco. Ah, qui. Non tollererò fallimento e farò in modo che non avvenga. Mi ricorderò di te, novellino. Forse. Prenderò la mia squalo nero, il terrore dei mari del nord, e raccoglierò la flotta più grande, la flotta più grande che ti sia mai vista, e ti raggiungerò al nord e insieme io e te lo sconfiggeremo, lo squalo nero è e lo porteremo nelle profondità, più che altro domattina in fondo, là dove non potrà più tornare. Meno e andiamo avanti. Raggiunge il cometico. Nel frattempo, cosa fa Philip? Allora, Philip si guarda intorno ed è eccitatissimo. No, è abbastanza a disagio. A disagio, e... ma sei pure frocio. Per cui all'inizio si mette a seguire gli altri due, poi quando vede che gli altri due invece sono completamente a loro agio, diversamente super arrabbiati, si mette in un angolino e si siede lì. con un pugnale. Ogni tanto qualche cortigiana ti si avvicina e anche qualche membro dell'equipaggio prova a fare un po' di bisboccia con te. Sì, io gli dico, io li uccido. Sì, bella, con le battone gli dico tipo no, grazie, faccio, e tengo la testa ma bassa. Dai, sei così carino e muscoloso. Tipo bambino autistico, no? Cioè... Esatto. C'ha un coltello in una mano, il topo, una carcassa di un topo nell'altra, ed è lì che deve pugnare. Hai fatto un PG ritardato. Ma hai un PG ritardato. Sì, esce. Come sì? Si chiama esce. No, bastardo. Si chiama esce. Gamberone. Si chiama esce. No. No, e quando invece arriva quello dell'equipaggio che ha... Io dico frasi di circostanza, tipo, sì, bel tempo fuori. Ma tre giorni fa faceva un freddo. Non come quando è arrivata la tempesta, sì. Beh, bevi un po' con noi, dai. Il capitano dice di portarti quest'otre. Sì. Ti piace il buon vino? Buon vino sì, grazie, ma solo un bicchiere. Buon vino del sud della Saradovia, il più dolce. Ah, mi ricorda... casa. Ah, un uomo del sud, brindiamo a questo. Brindiamo. Un uomo del sud al nord, e vai. E vai. Do un sorsino e basta, però non bevo niente. Questo rispecchia la sua vita attuale. È più a suo agio con questo personaggio. Oh. Interazioni sociali tipo levetta più bassa. Ho scelto apposta. Va bene. Eric. Vai. Cosa vuoi fare? Te l'ho detto, faccio... Sì, giro là. E... sì, vai un po' più sul tardi, immagino. Dopo cena. Dopo cena, sì. Sul tardi. E... sì. E... allora... ci sta. E mentre stai andando, a un certo punto... in un vicolo senti ehi, psst, ehi tu, voce conosciuta, fammi un tiro con perception. 11. Ti sembra di riconoscere la voce dell'ognomo Piti. Mi giro. Guarda Piti, hai incontrato proprio l'unico che voleva salvarti la pelle. No, ti è andata benissimo. Mi avvicino. Ehi tu, piccoletto, da piccoletto a piccoletto. Ho sentito dire che i tuoi amici hanno cambiato idea su un certo affare. Al momento non sono con loro, non so di cosa stai parlando. Dico solo che io e te potremmo trarne un beneficio condiviso. Spiegati meglio. Beh, diciamo che nessuno di loro mi sembrava particolarmente astuto, mentre tu sembri essere uno che... intelligenza 8. In effetti perché parli tu che sei forse quello con me? Cioè, mentre lo dici, tutte, tipo film, sono tutte le scene, sono in un angolo così, quello che prega... quell'altro che sbaglia con la sigla di Friends in sottofondo. Beh, mi stai chiedendo una cosa molto particolare, ovvero tradire la compagnia con cui sto viaggiando per un guadagno principalmente tuo. La mia retribuzione deve essere alta e proporzionale. Beh, quello che ho proposto agli altri andrebbe a te un toto. Non so cosa hai proposto agli altri, non c'ero. Beh, vedo che non ti rendono partecipe degli accordi. E lui, come ti ho detto, non sono con loro in questo momento. Beh, io Ho qua una bella spada d'argento che potrebbe forse fare al caso tuo qualcosa di valore, molto valore. Diciamo che potrei aggiungerci sopra una ventina di monete d'oro. Per fare cosa? Per la pietra, so che tu potresti ottenerla facilmente. Come mai ti interessa così tanto? Diciamo che so fiutare determinati affari. Per voi dove andrete mi sarà poco utile, mentre io penso di poterla smerciare. Con loro come eri rimasto? Perché a quanto so mi hai detto che gli hai fatto una proposta. Sì, quella che ho fatto a te adesso fondamentalmente. Ma come eri rimasto? La tua è anche migliore in realtà. Con che accordo eri rimasto? Perché se vieni a parlarne con me vuol dire che ancora non hai concluso. Diciamo che ho avuto voce che si siano tirati indietro dall'affare. Ma siccome l'affare non era con te, ho pensato che forse potevi essere interessato. Da quello che si dice sei una persona che sa cogliere una certa occasione. E ridi ancora prima che ti dica l'intenzione. No, perché so cosa intende. Beh, non nego che si possa fare. Bene. Molto bene. Capirai però che ho già investito una parte in questo. Devi sapere che prima che voi arrivaste, il master ha detto che farà di tutto per metterci sempre comunque l'uno contro l'altro. Beh, effettivamente ci sta riuscendo. Non c'è neanche bisogno che si impegni. stavolta vi anticipo già che lo sto facendo in buona intenzione solo perché voglio ucciderlo, ve l'ho detto prima. Quindi è difficile adesso. E diciamo che da quello che so partirete a breve, potrebbe non essere un problema recuperarla, il problema appunto è il tempo, bisogna organizzare in fretta questa cosa. Sì, potremmo fare già stasera in effetti. E so che i tuoi amici e così anche te siete stati invitati a una festa. Le condizioni dei tuoi amici dovresti però avere... eviterei di farlo in un luogo pubblico. Beh, direi che invece questa è un'ottima occasione per fare scomparire qualcosa. Sì, dico lo scambio. No, ma tu recupera l'oggetto e questa sera stessa facciamo lo scambio. Ok, una volta recuperato l'oggetto? Non ti preoccupare, ti contatterò io, come ho fatto adesso. Va bene, quindi dovrò tornare in città. Beh, siamo poi così lontani, insomma. No, nel porto, senso, io ti consiglio, direi che è un buon momento per beh, il momento lo sceglierò io, visto che non ho un anticipo e nulla, le condizioni le darò io. Certo, ti lascio il tuo tempo per lavorare, quello sì. Ok, a più tardi. A più tardi. Continuo il mio giro. Non nel suo viattolo, ovviamente. Cioè, mi separo. Quindi vai ancora di là? Sì. Ok. Vado nella zona di ieri sera, a sto punto... dove c'era la casa, okay, dove sono entrato la sera prima. A un certo punto c'è uno che ti deve in mezzo alla strada che dice: ehi tu, sì? Dove stai andando? Chi sei? Sono una della ronda cittadina. Sto facendo un visione di città, è l'ultima sera prima della partenza. Credo che avete ancora una sera. Cioè, questa qua. Sì. Salta in giornata, no? Domani? Dice, questa non è una buona zona per girare adesso. Non conosco la città, sto semplicemente facendo un giro. Certo. Dove devo andare? Per trovare... Vai verso il porto, lì c'è da divertirsi. Qua c'è solo gente che vuole riposare. Non è per girare, no. È solo uno? È uno, sì. Vabbè. Grazie per l'indicazione, torno indietro, poi svolto nella via dove non c'è lui e ritorno lì. Se faccio manovra per nascondersi, muoversi silenziosamente e nascondersi. 16 più 8. Lo vedi ancora lì in posizione. Ah, è fermo, quindi non è ronda, è in posizione. Sì. Sta ma salì. È davanti alla casa o... No, però diciamo che non è lontano. È illuminato come l'altra sera, nel senso poco. Molto poco. Quindi potrei passare dall'altro vicolo e... Cioè, come sono disposte le case, tipo scacchiera classica? Puoi provare a fare un giro largo, esatto, per aggirare. Sì. Sì. Faccio così. Arrivi magari, visto che ho notato che ci sono delle postazioni di guardia, ogni angolo controllo che non ci sia nessuno per strada, prima di muovermi. Proprio perception? Basso, 7. Arrivi a una certa via, sento un'altra voce. Ehi tu, piccoletto, dove pensi di andare? È un po' tardi proprio per quest'ora. È la stessa persona di prima. Un'altra voce. Chi sei tu? Sono uno della ronda cittadina. Questo è un momento di riposo per la città. Che cazzo? sono dei videogiochi con le stesse. Abiti qui vicino? No, faccio parte della compagnia arrivata con la nave, sto semplicemente facendo un giro in città prima della partenza. Non è un buon posto dove girare a quest'ora. Stavo andando verso l'osteria. Chiedi dove. Ma non è da questa parte, dovresti andare di là, ti indica la direzione da cui sei venuto fondamentalmente. Non è vero, come fai a saperlo? Alto. Dovresti andare di là, se vuoi ti accompagno per un tratto. Va bene. Ti accompagno per un tratto. Che palle fare i bravi. Se vai per questa strada, torni all'osteria. Ok, grazie. Prego. Lui gira. Torna indietro. Passa dai tetti. Sì, vai. Mettiti un mantello. Esatto. Quando non c'è nessuno, oppure se c'è qualcuno in zona, faccio di nuovo mano per nascondersi e provo a tornare indietro nuovamente. Passate lì. Da che parte adesso? Da una parallela, a sto punto. Sempre provando ad andare in zona da una delle vie parallele. Fammi un altro perception. 20. 15. 20. Deduci che in questa zona, cioè che questa zona è come se fosse praticamente accerchiata. Non sono tanti, ovviamente, però si muovono un po', ci sono 4-5 guardie che si muovono. Ok, sono si muovono, quindi non sono stanziali, però si muovono un pochino e rimangono in zona per coprire una certa parte. E adesso sono lato verso osteria. C'è qualcuno per strada o nei viattoli di persone? Non c'è nessuno, non sembrerebbe, a parte questi. Vabbè, un... siamo lì. Mi avvio un attimo verso l'osteria e ti faccio un perception, direi. Aspetta. O in investigation, dimmi tu, per trovare se c'è qualcuno a terra, tipo barboni o simili. Se trovo qualcuno in osteria? No, prima mi avvio nella zona là perché immagino ci sia più gente. Se c'è qualcuno, più gente c'è dalla non dalla molto, locale. C'è qualcuno tipo qualcuno bivacco così. Trovi uno poco vicino dall'osteria che sta vomitando in un pozzo. Non è proprio quello che intendevi con no. Bivacco, credo. È una persona con cui si riesce a parlare o... Puoi provare. Ehi, come va? Chi sei? Come va? Ehi, tanto! Fammi un tiro di destrezza. Di destrezza per non sporcarmi. 14. Riesce a evitare il getto di vomito che è troppo caldo. Qualcun altro in zona un po' più. Non sto quello che proprio vomita. Bene. E poi cade tipo all'indietro. Qualcun altro più in condizioni semidecenti in zona? La locanda a sentire le voci. In zona locanda, davanti alla locanda. Adesso. L'altra locanda, quella brutta, di là. Tra virgolette. Puoi andare. Sì. E bussi? Sì, non mi ricordo però la... Neanche io me la ricordo. Ok. Di una parola. Affari interni. Prego, entra. Cos'è? Bellissimo. Prego, da questa parte. Prego, da questa parte. Mai... Come si chiama? Eric, perché? Non la vedo qua in lista, però ha detto la parola per il tavolo VIP. Prenda pure, venga pure con me. Ma davvero? Sì. E ti fa accomodare a un tavolo, ci sono altre persone. Non ce la faccio più a finirla sta cosa. Ok. Ci sono altre persone che ti guardano, dicono salve. Salve. Chi è lei? Sono qui per rappresentare una persona che vuole rimanere in anonimato. Quindi sembra interessante. Dice una donna lì con un cappello un po' particolare. Madonna. Okay. Raccontami di più di questa persona nell'anonimato. Se vuole rimanere in anonimato io sono qui. Beh, questo direi che è il posto migliore per le confidenze. No. Piccoletto. Sto semplicemente cercando una persona per un lavoro, ma non penso di trovarla a questo tavolo al momento. No? Beh, comunque sembri simpatico. Noi pensavamo di bere un po' e poi andare a fare un salto dalla nave per vedere un po' come tira l'aria. Sì, anche per me è un progetto simile. Sul tardi passerò alla nave. Va bene, dai. Che cosa ti porta in città? Quella nave. Sì, quella nave. Ah, quindi sei qua per stare? Io sì. No, io sono su quella nave, sono in partenza. Ah. Allora dovresti festeggiare... Perché? Festeggerò dopo sulla nave. Ah sì. In questo momento sono al lavoro. Ma possiamo festeggiare anche qua? Lavoro, no? Qua non si lavora. Sì, come ho detto, sto cercando una persona. Ah, che persona stai cercando? Quando la vedrò saprò di averla fatta. Ma magari ti possiamo aiutare. Sto cercando una persona per un lavoretto con le guardie. Un lavoretto con le guardie? Vuol dire per la ronda? Per fare sì. La ronda? Beh. Se vai via, che cosa te ne frega di fare la ronda? Come ho detto, sto cercando una persona perché al momento sono al lavoro. Forse vuole uccidere quindi qualcuno, prima di dice andare, qualcuno. Prima di andare via uccidere a festeggiare devo perché? Fare delle cose. Che tipo di cose ti dice? C'è qualcuno che si fa i cazzi suoi? Sono un po' troppo curioso a questo tavolo. Beh, sì, non sappiamo chi sei e sei arrivato al nostro tavolo. Quanto pare conoscevi la parola. Neanch'io però so chi siete voi. Sono stato mandato qua. Ma non so io mi più. Chiamo Roman, piacere. Piacere. Lei è Gelsa. E ma quante persone sono... ci sono? 5-6 persone. Ti diverti con poco tu, eh? Sto divertendo, ma non c'è tanta gente che sono a casa, tipo poche altre, però sono... Ma la parola segreta la sapeva per qualche motivo? No, se l'hai inventata adesso. No. No, da prima, al di là che l'avessi inventata perché non la ricordavo. Sì, no, perché c'era una parola che ci aveva detto, non mi ricordo chi, sì, per entrare in però questa però era per quella serata là. Sì, sì, ah, sì, ok, casualmente lui però ha detto una parola a caso e è del tavolo VIP. Ok. Beh, ha funzionato. Sì, è un gran casino. Va bene, Giulio. Finalmente. Arian, prego. Mamma mia. Sono passate 12 ere geologiche. E ancora devo far tutto, è incredibile. Cos'è questa polvere che si è accumulata? No, a un certo punto mi alzo dalla mia stanza e mi dirigo verso la nave. Perché noi siamo alla locanda. Sì. Arrivo alla nave. C'è un po' di fila per entrare. Però a un certo punto vieni notato e ti dicono tu, vecchietto, sei dentro. E tu dici, ma come è possibile che sia questo scappato di casa, cazzo, non ci fai entrare. Qualcuno mi insulta nella fila. Dai, io questo vecchio non fai entrare, ho messo a te. Ma cosa ci vorrei fare? Cosa ci può fare dentro? Tu puoi fare anche usarlo, ormai non gli funziona più. Beh, fai fare una strage. Se resta un po' troppo in vena, mi sa. Fai fare una strage perché ti hanno detto vecchio. Sì. Cioè. Thunder Wave! Zitti, testa di cazzo, lui è dentro. Ordine del capitano. Beh, l'hanno insultati già, dai. Po' mi spiace, ragazzi, la prossima volta cercate di essere più utili. Old power! mi avvio. Oddio. Va bene, sei dentro anche tu. La situazione è questa, vedi. Vedi, Sirron che o Ray, è vero, voi lo conoscete, cioè Philip lo conosce. Ah, giusto, io quanto tempo è passato? Perché ti ricordi quei trucchi? Ce l'hai ancora massimo, un po', però sta per finire. Massimo posso cercare detto alla fine dei materiali che possano... Credo di averlo detto che lui è Sirron a un certo punto. Non mi ricordo. Dico, posso trovarmi eventualmente dei materiali che possono assomigliare a quello che sto facendo. Puoi provare a chiedere. Perché mi hanno detto la mia nave del Baldrack, direi che il trucco mi sì, è. Vedi un Sirron che goffamente balla con alcune donne e sembra divertirsi, ogni tanto beve dalle loro tette. Mi metto un attimo mi allattano. Sì. Poi su un divanetto, alcol. Su un divanetto vedi due personaggi vestiti in modo molto assurdo, uno dei quali è Quakeheart, che stanno bevendo come dei pazzi e strusciandosi su delle ciccione. E poi poi inizialmente poi mi fai un perception. No, non riesci a vedere Philip. Sei nascosto troppo bene. È giusto. Io per un attimo sono tentato di andare da Quake e fargli passare la sbornia, quindi dico, ma perché? Eccolo il mio amico! Bevi e divertiti come i tuoi amici. Non proprio tutti, ma insomma come i tuoi amici. Tutto offerto dal grazie, capitano Taius. Taius. Grazie, capitano. Taius. Ricordo, Taius. Stampato, ma. Taius! Sono vecchio, ma la memoria mi funziona. Taius! Chi è il capitano di questa nave? Taius! Mi allontano. Impaurito, direi. Mi metto un attimo in prendo del cibo. Sì, ti si avvicina un tizio con un cappello molto grande, con una bella barba, abbastanza anziano anche lui, non come te, ma abbastanza anziano. Ci fa, ehi amico, tu sembri uno che conosce i piaceri giusti della vita. la preghiera, il digiuno, quelli. Vuoi farti un po' di un po' di oppio con me, c'ho la roba buona, vedo che tu hai l'occhio di uno che e se pensavate che lui fosse quello sobrio e sano della compagnia e dopo mi sparo a Restoration. Mi frega. Se sarà in grado ti porta in un locale dove ci sono varie brandine e c'è gente che si sta facendo di oppio, anche qualche puttana eccetera. No, prova questo amico, roba buona, roba buona. Roba di qualità, te lo dice uno che sa di cosa parla. Posso prendere tipo qualche erba per eventualmente diminuire l'eventuale effetto della cosa? E hai delle erbe con te? Ho il kit d'erborista. Facciamo proprio medicina. La puoi. Sì, puoi miscelare, penso. Non sono così bravo con le droghe in realtà. No, magari è una sostanza che assumo prima che combatte gli effetti. Ah. Fammi una prova di medicina. Per i finanzieri che ci stanno seguendo. 20. No, le droghe. Oppure se qualcuno ci vuole sponsorizzare. Ah no, molto ho fatto no. Anche la tua meditazione, però sì, puoi diminuire. Ok, allora. E poi do un'aspirata stavolta. Mm-hmm. Ok. Poi mi ha buona. Sì, te l'ho detto, amico, te l'ho detto, questa è roba buona. Dai, ma tirata anche tu. Sì, ti tira anche tu. Sì, ma dimmi, tu sei qui sulla nave? No, in questo momento sto viaggiando. No, no, in questo momento. Vedi, siamo fermo, siamo, su, siamo tutti qui, ma al tempo stesso non siamo qui. No, nel senso, tu vivi nella città o sei sul sì, nella... sì, sì, sì, sì, sì. Ma solo per poco tempo, amico, solo per poco tempo. Perché cosa pensi? Sono qui per fare affari, affari, affari. No, affari, affari, amico, qua è troppo freddo d'inverno, amico. Vuoi tornare in Saradovia? In giro, amico, c'è in Saradovia alla fine il divertimento, c'è qua, c'è commercio buono, buono, roba buona, con pezzi bassi, si compra e si vende. Diventerà un bel posto, amico, fra qualche anno quando cominceranno a sistemarlo. Fidati di me, amico. Da un tiro. Fidati, fidati. E poi gliela ripasso. Comunque, se dovessi avere bisogno di altri porti, ti do il mio biglietto da visita. Do un biglietto da visita. C'è scritto. Ho inventato il biglietto da visita per me. La, la pergamena da visita. No, un bigliettino. No, facciamo. Sì, è tipo una tavoletta di legno con sopraciso tipo Arsel con l'H per i piaceri della vita. E di più. Interessante. Hai per caso qualche conoscenza di Tana dell'orso? No, amico, lì è troppo remoto. Cioè, ci faccio arrivare un po' di roba tramite il capitano, però troppo remoto, amico, poca gente lì. Adesso è un buon periodo comunque qui e sono, sai perché sono qui soprattutto? No, non tanto per gli affari. Che vedi, gli affari si possono fare un po' ovunque nel mondo, ma mi piace vedere posti nuovi, amico, posti nuovi, capisci? Cioè ti apre la mente, cioè noi dobbiamo vivere il momento e scoprire cose nuove, per questo è importante viaggiare, non perché sia importante anche gli affari, quelli c'è il denaro alla fine. No, no, sono d'accordo, anche io ho intrapreso questo viaggio. Sì, sì, amico, sì. Sì. Una ricerca spirituale. Hai fatto bene, amico. Ma cosa. Quindi vuoi andare a Tana dell'Orso, amico? Sì. Troppo remoto, amico, troppo remoto. Lo so, però. Però ci sta. Ti rispetto, ti rispetto. Grazie. Cosa vuoi fare là? Non so. Caccia di orsi, amico! Sì, amico, sì. Sei uno sano. No. Sì, voglio... Adesso arriva anche a te, sai. Sì, no. Voglio poter dire di aver visto l'estremo nord. Sì, amico, estremo. Sì. Sì, perché dobbiamo raggiungere i posti più estremi. No. Siamo delle cazzo di tigri all'aria aperta, amico. Mamma. Dei cazzo di leoni lanciati contro la preda. Quasi finché, non guardi, senti... guarda. Finché non sentiamo il sangue nelle nostre fauci. Non ci sentiamo veri uomini. No, come draghi che volano. Quello che stavo dicendo. Sì, amico, sì, i draghi potenti. Bravo, amico, mi piace, amico. Tornerò da te. Ora sdraiati. No, un po' di fame, vado su a prendere qualcosa a mangiare. No, amico, fatelo sentire dentro. Il cibo è effimero. È effimero. È effimero. Il fatelo sentire dentro non va così. Sì, io l'ho capito. Torno un attimo su, poi torno giù, ci becchiamo dopo. Va bene. Magari beviamo qualcosa insieme. Sì, sì, amico, quello che vuoi. Fantastico. Fantastico. A dopo. Una bella tisana. A dopo. Risalgo sopra. Però, amico, se tu non sarai qua, ma sarai qua. Oh. Io l'avrei convertito. Quando gli dici qualunque cosa, ci crede. Secondo me ci crede che tu sei il suo dio, improvvisamente. Comunque torno su e continuo a mangiare. <con te. ride> Ok, stavi facendo la presentazione a sto cazzo di non tanto. Abbiamo fatto niente di quello che volevo fare, però è stato detto carino comunque. E finisci questa presentazione a sto tavolo, quanta gente c'è? No, c'è un po' di gente okay. Che ti presenta e tutti vogliono sapere che cazzo fai. Gestisce il portale. Non lo so neanche io. Poi no, tipo... non me l'aspettavo adesso una roba del genere. Poi cominciano a tirare a caso, tipo, secondo me è un... lavora in un circo itinerante che va per tutte le colonie per dare... No, no, no, no, secondo me è un erborista. No, no, no, secondo me invece è una di quelle persone che recuperano i crediti. No, no, secondo me invece... Questo qui a occhio comunque sono tutte persone della città, quindi... Non sì. È gente che ho visto sulla nave. Sì, però sembra gente un po' particolare, diciamo. Forse anche un po', in un certo senso, quasi come se fosse una sorta di borghesia della città. No, è una cioè, non sai bene se mi sono... è venuta in mente una cosa, non ma non sai bene se sono della fare. Città o dei forestieri, però sì, c'è cioè, gente un po' particolare, insomma, non è il classico contadino. Guarda, se è stupida la sessione, secondo me lo prevede. Beh, ma a questo tavolo due persone stanno per sposarsi. Davvero, amico? Amico? Ah, no, quello era l'altro, scusami. Sì? Sono beccato. Possibile? Sposarsi? No. Chi? Questo tavolo? Ho capito, è uno che celebra i matrimoni. Eh? È uno che celebra i matrimoni. Celebri i matrimoni, amico? No, sta diventando troppo confusionaria la cosa. Beh, se sai giocare bene le tue carte, ti dice la tipa, forse magari forse non era quello che intendevo. No. Sai cosa si dice di quelli piccoli, no? Sto diventando faccelo vedere, faccelo. Vado. Ma vieni con noi. Sì, vado a incontrare il mio no, lavoro, intanto bevi pago... con noi, bevi con noi, ti prendo, intanto, tipo, intanto ti bevete, trattengono, ti trattengono. Intanto bevete e chiedo un cominciano a giocare con te come se fossi tipo una specie di bambino, ti trattengono. Davvero? Sì. E tiro fuori... No, no, non quello. Sì, ci ho fatto vedere! Sboccia! No, tiro fuori la spada. No. Calmi qua. C'è il tipo lì, Ramon, che tira anche lui fuori una spadone enorme. Fa no, amico. Non è la serata giusta. Se sei per rogne. Non sono giusto. Entrato io per rogne. Per scusa, per rogne. Sei però questo è messo e ti abbiamo accolto come un fratello. Ho detto che sono qua per affari, non per festeggiare al momento. Va bene, quindi... parliamo di affari allora. Esatto. Che tipo di affari? Tipo pianta la spada sul tavolo. Non è a questo tavolo al momento l'uomo con cui devo parlare. Con chi dovresti parlare? Quindi giro davvero per tutti e ci vediamo più tardi alla festa in barca. Fammi un persuasion. Ok. O un deception se preferisci. 21. Va bene, dai, ci vediamo dopo. Piccoletto. Scampata al pelo. Cazzo, non mi hai retto la cara, veniva per una cosa carina, dopo te la dico. Vado al banco. Chi c'è al banco seduto? Personaggi. Qualche persona, però gente silenziosa sembrerebbe. Poi dimmi, fai il conto totale per giro, bevuta, eccetera. C'è qualcuno che... Allora, l'idea mia è di pagare qualcuno per attirare l'attenzione di una delle guardie della ronda, mentre questa qua accompagna o manda via questa persona, io passo nel momento in cui si libera la strada. No, devi farlo con gli altri. No, io stavo cercando uno per terra fuori, non volevo neanche entrare in osteria, ah, okay. Però non l'ho trovato, quindi... E c'è una persona che... Sembra fare il caso mio al bancone o... Tutta gente un po' silenziosa, però puoi provare, puoi fare un... per vedere se... puoi fare un... investigation. No, investigation. 15. Sì, sembra che qualcuno, insomma, per due soldi lo possa far volare. Provo ad affiancare una di queste persone e gli faccio la proposta per 5 monete d'oro. Conio qua, beh sì, potrei in effetti potrei farmi una baldracca in effetti, sì, perché no, niente di particolare, niente di e niente da finire in prigione, semplicemente ho bisogno di passare, quindi semplice distrazione. Va bene, quindi andate verso... Va bene. Allora, e... io mi nascondo, rimanendo indietro. Perception. Ok. 11. Ok, non ci vuole molto, però... Vecchio, ma che cazzo... Vecchio, bolognese. Ma che cazzo è quello? Vedete, tipo, delle fiamme che vengono da una certa parte della città. Da che parte? Dove devo andare? Dove state andando? Sì. Ah, non lo so. Ho iniziato a lanciare fulmini a modi... No, no, no, se, cioè qua bisogna chiamare aiuto. Vabbè, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andate a vedere. E poco prima ci sono tipo... detto una guardia che fa, via, via, via di qua, è pericoloso. Bisogna chiamare aiuto, bisogna spegnere l'incendio. Siamo venuti per aiutare. Allora andate a chiamare gente, presto, a prendere dell'acqua. Tenete, ti danno dei secchi. Devo andare proprio lì io? Eh? È proprio la direzione in cui devo andare io? Dicono, di là c'è un pozzo. No, parte. La zona della città, è proprio lì che devo andare? Sì, ma siete quasi arrivati comunque, cioè sono quasi dalle fiamme. Però vi dicono di andare a prendere dell'acqua. Andiamo, andiamo, andiamo, ti dice l'altro, presto. Qua non c'è scherzo. Andiamo a prendere l'acqua. Va bene. Andiamo a prendere l'acqua. Almeno posso avvicinarmi, se no avrò il secchio pieno d'acqua, cazzo. Puoi avvicinarti. Avvicinarti. Ok. È proprio la casa dove devi andare. Esatto, immaginavo. Tanto, non è che... colpo di scena. No, ma dai. Hai letto il titolo della puntata? No, le mie tuniche. E niente, vai, sono andato a fuoco. Aiuti a spegnere l'incendio, però può, ci vuole un bel po' di ore per un bel po' di ore? Qualche ora, sì, per essere andato a fuoco. Gli idranti. Allora non gli do una mano. Tiro la secchiata che ho riempito e vado via. No, no, devi aiutare anche tu, piccoletto, non farlo sconto. Sì, sto andando a cercare altre persone per aiutarsi, sta tranquillo. Deception? È il tipo il titolo. Fidati. Che ora dice? 24. Ottima idea, bravo. Sì, con quelle manine si poteva dare poca mano, ma corso così con la sua velocità sicura. Ah, certo. Va bene. Mamma mia. E se non avete cose particolari, andrei al giorno dopo. No, no, devo tornare per parlare di sta pietra. Il tipo ha fatto la proposta, no? Ah, cosa vuoi fare? Andare alla nave? Sì. Sì. In che condizioni li trovo? No. Allora, intanto c'è una bella fila per entrare nella nave. No, anch'io sono del gruppo, me la faranno saltare. Tu sei piccolo nella fila, basso, non ti vedono. Ah, grande, che spettacolo. Una nottata spettacolare. Devi essere alto almeno così per entrare. Capisci che devi farti un po' notare, se no qua non entri. Beh, passo di fianco alla fila, la supero. Ehi, tu piccoletto, dove pensi di andare? Devo parlare col buttafuori. Non penso... No, adesso torno indietro. Troppa. Chi lo dice? Lo dico io. No, lo dico io che devo parlare. No, la dico io. Ehi, ehi, fermi. È un altro di quei furbetti. È un altro di quei furbetti. Fatelo entrare. Entri. Lo riconosco, togliamo gli abelli, facciamo finta di essere lui per entrare. Non basta per coprirti. Sono piccolo. Allora, entri. Mi fai anche tu un bel perception. Per provare lui. 9. Tu vedi Filippo? 9. Vedi Filippo a un tavolino che si sta continuando a grattare la testa in chiaro disagio. E vedi sempre. Ma fatti vedere da uno bravo. Ray che. Che problemi ha? Zitto, Monaco tinto. No, beh, direi che a sto punto Ray finalmente è riuscito a concludere, quindi non lo vedi. Ok. Wow. E... lui in che condizioni è? Vedi Katta che cioè praticamente, cioè vedi Quake che praticamente c'ha una cicciona addosso e gli sta succhiando avidamente le tette a vicenda, si sta succhiando. E... a me è andata un po' meglio. Te non ci sei adesso. Tiro un 10. parte. Ok, ci sto. Poi vedi Arian che sta praticamente mangiando un pollo e intanto discutendo con delle varie donne nude. Abilmente. Ah, sì. Sì. Okay. Cercando di dire. Vesti rondicento. Vesti rondicento. Cosa ti l'ha detto lui? No, chi è caro? 95, sono chili. Okay. Allora, al quadrato. Chiamo loro qui due. Qui sono i peli. Ma tirato alto, io comunque cioè, vado. Prendo lui e lo porto a tavolo. Che vedeva 20 kg cos'era? L'età lavorativa è molto bassa in questo. Gli dico che mentre giravo in città sono stato contattato dal tipo, da Piti. Noti che Giulio e Arian fa un odore un po' strano. Lo sbaglio, sento che qua il pollo è molto speziato. No, lascia perdere, uno mi ha offerto da fumare. Fratello, non capisci, estremo. No. Comunque sei di. A quanto pare, nonostante la chiacchierata fosse alla locanda e privata con il capitano, è riuscito a sapere che l'affare è andato in fumo. Ho fatto due tiri che sono lucido e mi ha proposto di fare un mi ha fatto un'offerta alternativa, ovvero una ricompensa maggiore di quello che aveva offerto voi per ricevere comunque la pietra. Ne sembra molto interessato. Ah, quindi altre cose da parte, perfetto. Esatto, quindi direi che uno non lo vedo, l'altro è in condizioni. Sì, no, non erano messi di. L'altro è in condizioni un po' proibitive. E comunque non andrei a mani vuote. Andrei comunque con la pietra. In modo da riuscire a farmi entrare. Quando dobbiamo andare? Entro la notte. E l'idea. Io, anche se non mi sembra una buona idea, pur di uscire di qui, gli dico sì. L'idea è che io dovrei incontrarlo da solo, perché sa che voi non siete più interessati all'affare. E nel momento in cui si sta per concludere la cosa, vediamo come concluderla al meglio per tutti noi. Allora, vado verso di lui, no, gliela. Direi che gliela posso sfilare. Sì. Possiamo chiedere. Che cosa? Il nostro compagno. Sì, ma portarselo dietro ubriaco con. No, lui starà qua. Diciamo, ah, ok. Allora, la pietra dove ce l'hai, Cato? Ce l'hai con te o ce l'hai alla locanda? Ce l'ho con me, nascosta molto, molto a fondo. Che schifo. Sì, nascosta molto a fondo. Ma la cicciola l'ha appena trovata. La sta leccando. Io mi avvicino un attimo. È un posto molto sicuro. Schifo. Molto scuro, hai detto. Cerco un attimo di attirare l'attenzione in modo che si interrompano un secondo, non so quanto è successo, tipo sbattendo la lancia che fa rumore, schiarendomi la voce. Vabbè, ora ve lo giocate voi due. Che cosa vuoi? Lasciami in pace. Niente, vorrei lasciarti continuare, ma volevo chiederti se potresti. Ehi, se vuoi c'è spazio per te anche. Sì, no, sono vecchio. Dov'è lo spazio, scusa? Sono. Tu chi sono molto vecchio, non credo che le mie ossa possano reggere a certe sollecitazioni. Ehi, non era carino. Non era. Chiedi scusa alla signora. No, è perché sono molto gracile. È proprio. Adesso lo sbaglia. È proprio l'attività che non riuscirei a fare. Non è perché te. Sono io il problema. Per stiamo amici. Persuasio? Ok. 21. Oh, povero. Tipo ti accarezza, ti potrei dare una mano io. No, vabbè, l'ha spiegato che. Comunque, stasera avesse preso la tangente, non c'è storia. Mi avvicino un attimo al Quake. E dice, senti, mi servirebbe la pietra, me la puoi prestare? Cosa ti servirebbe? La pietra. Cazzo, che non l'ha davvero sentito. C'è la musica, è un casino. No, le orecchie tappate da. È presente quella dell'Albatros? La mia pietra? Sì, me la posso stare per questa sera. Via, via! quella che ci ha permesso di arrivare fino a qua sani e salvi. Sì, e che ci proteggerà per tutto il nostro viaggio. Esattamente. Me la puoi prestare per questa sera, per favore? Da che cosa ti serve, caro amico? Non vorrei che tu la perdessi. Ah, giusto. Okay, okay, okay, mentre la cerca gli cade. Ma non posso perderla. Se la lancio. Okay, ok, qualche malintenzionato te la rubi, visto le tue condizioni e diciamo quello come vuoi concludere la serata. Giuro che domattina te la ridò. Dividere l'oro. L'offerta è quella, dividere l'oro. Aspetta, era un ero, dove stai cadendo? Domattina te la restituisco. È una grossa responsabilità, sei sicuro di essere in grado di adempierla? Sono un prete, certo. Cosa perché io mi dico in culo perché ubriaco. Beh, nel senso, sono una persona affidabile. Ha tenuto lo scrigno fino adesso. Da lontano senti la voce. Da questa pietra dipendono le nostre vite. Tiene a bada i venti e le maree. È una potentissima pietra. Perderla significherebbe gettare sciagura su tutti noi. E infatti per questo voglio assicurarmi che per questa sera... Dai, sulla terra come in teschio. Sì, sì. Riuscirò dalla borsa. Stia al sicuro. E poi domattina tu che sei il suo protettore, rifocillato e ristorato, potrai tornare. Lei si sente chiamata in causa. No, non è lui il mio protettore. Sì, le tue parole possono avere un certo senso. Dai, Quakert, non perdiamo tempo ulteriore. Beh, sì, un attimo, devo andare a spendere, poi torno da te. Il dolce. Non sai nemmeno cosa dire. Dai, dillo. No, dico il tuo personaggio. Il mio. O dolce Leone Marino. Dico il tuo personaggio. Ravano un po', tiro fuori una noce di cocco, un pappagallo. Ah, una cosa comune vostra dei pappagalli. Il coso da protesi, quello da carnevale con l'uncino di plastica. Oddio, va bene. La pietra. Ecco, e tu la tenevi così al sicuro in mezzo a tutta quella roba. Peggi la corso della vita. la prendo e la infilo sotto le vesti, dove c'è anche lo scrigno. Due in uno rubano. Stasera finisce male. È bellissimo. No, dopo appena scendiamo dalla nave, do a te la pietra. So che qui gli ho detto che la prendo io. Vabbè, che magari non se ne rende, anche se faccio ok, tieni, però. Beh, direi che io non indugerei oltre la che ti aspetta. Va bene, lasciate... Basta una buona nottata. Lasciate qui, carta, sì, sì, sole. Vai pure. Qui ci penso. Ne sono qui. Qui ci penso. Ma riesci a finirla tutta? Vai, scimmietta. Ed hai scelto molto bene. Lasciatelo dire, hai scelto molto bene. Poi mi allontano. Va bene, quindi uscite dalla nave. No. Sì. Sì, tutte e tre. Sì. Va bene. E, come gli ho detto prima, l'idea è di incontrarlo prima da solo e al momento dello scambio... Tieni la pietra. Grazie. La metterò in un posto oscuro. Fate questo scambio lì davanti così, o un po' più infrattati in qualche modo? No, un po' allontanati dalla nave. Ok. Quando stai per passare la pietra? No, aspetta, qual è il piano? L'ho detto due volte. Ma non ascoltavo. Lo uccidiamo prima. Sì. questa è la versione riassunta. No, lui vuole fare lo scambio da solo, poi nel momento in cui ci sarà bisogno entrare tutta la richiesta. Sì, ma entriamo noi e lo uccidiamo. Quando Giulio tu stai per passare la pietra a Eric, praticamente... senti un suono molto sgradevole. Guardi in alto e c'è un albatros con l'occhio rosso che sta passando sopra di voi. faccio quello, la metto via. È passato. Prima, quella di fuori. Potremmo avere un problema con passarti a pietra. Che palle. Non hai un'altra pietra simile? No, possiamo provare a farlo dentro una casa. Però... Ok. È semplicemente passato quando è tirato fuori la pietra. Ok, ma per sicurezza, visto che... Cosa vuoi che sia? Sì. Ci mettiamo... La riprovo, la ritiro fuori. Non c'è niente. No, c'è niente. va bene. Allora mi incammino, faccio la stessa strada che ho fatto prima e vedo se... Aspetta, però, dici dove... Beh, mi seguite a distanza, grazie, immagino, ora no? Spendere le compenze, ma tutto il giochino sarebbe fantastico nel caso, lo facessi in Last Inspiration subito. Cioè, la responsabilità oltre tutto... Sarebbe fantastico, poi tu tipo arrivi dopo tutto, ragazzi, lo devo trovare... Però con lo zaino pieno di roba, di oro... Diciamo che sarebbe fatta così, sarebbe un po' troppo plateale. Sarebbe geniale. Sì. Vabbè, ma noi non abbiamo le tue abilità di nascondersi. Beh, lui sì, in teoria. Sì. Okay. Quindi tu puoi stare più indietro. Lui su nascondersi e stare lontano da tutto e da tutti è molto bravo, da quello che ho capito. Ok, va bene, quindi lui ci seguirà e io starò più indietro e seguirò. Sì. Va bene. Vengo contattato in un qualche modo? Ho una domanda per il master. Cioè, mi sembra che la festa armati. Io sì, sì. Armati di lungo. No, scusa, perché no? Boh, ci sono pirati di tutto, perché no? Va bene. Cioè, ok, magari non ci sarete andati in armatura. Io non ho tipo l'armatura di cuoio, quindi. Come no? Cioè, voglio sperare che non ci siete dati d'armatura. Però se volete avere una spada al fianco non è un problema. In realtà ci sta che Giulio ci sia andato d'armatura conoscendo Giulio. Sono un vecchio, scusa, ma ci vado come mi pare. Beh, ci vai in armatura. Io il mio lungo bastone, ovviamente. Secondo me l'armatura non ha senso. Che abbiate una spada o il bastone. No, che non me la tolgo mai. Cioè, neanche mentre dormi. Cazzo, no? Non l'avevi mai? Non riposi, quindi non riposi a piedi. Non funziona allo stesso modo che 3.5. Ah, ok. Va bene, okay. Vengo contattato. Ok, in non è che qualche non modo mai, mai, mai no. Ti laverai ogni tanto. Anche perché faccio l'armatura sacra! Fa la doccia con l'armatura, te lo vedo. Togli gli stivali, pieno di docce abbiamo fatto, guarda. Anche questo è vero. Il bagno sicuramente abbiamo fatto. Sì, il bagno nell'acqua di mare. In cui eravamo vestiti. Sì, è giusto. Ok. Vabbè, vedi tutti mezzi svestiti, disarmati, tranne Giulio con la sua armatura. Vabbè, è giusto. Ehi, tu. Mi giro. Quindi... Posso non avere lo scudo, ma... Abbiamo tutto, insomma. Anche se tracolla lo sì. Non so mai. C'è il mio simbolo sopra. Ho visto che... Però eviterei... Ho visto che ho questa strada. Ho un paio di vestiti. Cioè, un po' vestito. Un unico vestito che è quello. Sì. Sì, forse tutti quello sei. Molto movimentata. In effetti. Ci sono state parecchie cose impreviste. Diciamo che ci sono degli sviluppi interessanti, sicuramente. Sai qualcosa in più? Chi lo sa, forse. Tu. Hai qualcosa per me? Sì, però eviterei di concludere in strada, se possibile. Visto il movimento che c'è. Sì, ci può stare. Seguimi. Ok. Deve fare qualcosa o mi vede? Allora, no, lui mi fa uno stealth. Allora, intanto carico. No, intanto tiro i punti ferita. Cosa sta succedendo? Si vede, no? Sì, ci vediamo noi. Sì, si vede anche il coso. No, si vede anche il coso. Beh, posso fare anche così, solo che non posso togliere sta minchia, è così. Vai, vai. Allora, prima tiro i punti ferita, 2. Ottimo. Che punti fai? Cos'è? 2 più costituzione? Non avevo ancora fatto il livello. No, prendi la metà. Ah, giusto, sì, non hai ancora fatto salito di prendi livello. 5, okay. Prendi 5, prendi 5. E Katta non ha tirato davanti sì, a me. Sì, la veloce cosa. Scusa, la metà è 5, no, no, se fai sotto la metà, prendi la metà. Non è andato da 10. L'ha fatto un'altra volta. Ma lui era già andato via, se l'ha detto già. Sì. Ah, perché si è salito all'inizio? Sì. Ah, giusto. Io sono già tornato. Ok, sì, sì. Va bene, va bene. Va bene, e poi tiro un dado da 20 furtività sì. 12 e 5 17. Ah, giusto, hai ragione. Ok, sì. Beh, lui le invece molto ora più mi indietro, fai quindi... un perception con svantaggio. Oscurità tu la puoi evitare in qualche modo? Beh, oscurità, visto il piccolo dov'è. No, non posso fare un cazzo. Tira con taggio. 6, 12, quindi... Cos'è Perception? Sì. 3, 4, 10. Allora, non capisci bene cosa sta succedendo. Vedi Lars che però si ferma e poi riprosegue girando per un vicolo. Vabbè, io seguo. Seguilo. Stealth. Di nuovo? Allora. Yep. Cosa per nascondersi? 21. Ok. Io sono un più indietro. Due più indietro. Ah, ok. Non ha a un certo punto. E prendo l'arco. Sì. E a un certo punto. Piti ti dice di qua. Gira praticamente. Apre una porta e ti trascina dietro con sé. Mi trascina? Fai la prova. Cosa devo tirare? Boh, quello che vuoi. Destrezza, destrezza direi. 12. Ti dice di qua, adesso. Siamo seguiti, adesso. Io non mi sono accorto di nulla. Io faccio Deception. Deception. Sì. 21. Ok. Io sì, però. Vieni. Adesso. Non mi sembra un buon modo. Non è il momento di discutere adesso. Perché dovrei seguirti all'interno di un posto che non conosco? Perché sennò vedi, salta tutto. Nel mentre ha visto dove siamo? Perception. Cioè, siamo tenuti un attimo. Sempre con svantaggio. Sì. Ma scusa, loro si muovono al buio, no? Sì. La città è al buio, sì. Cioè, tu comunque sei lontano per non farti notare. Cazzo, ti potevo dare gli occhiali. Ma non ci penso adesso. Vabbè. Allora ho fatto 19, no, 2 e 2 e 4, 6. In questo momento non li vedi, ti avvicini però verso la zona dove pensi che siano. Sì. Intanto lì faccio cenno a Arian. Sì, no? Sì, sì. Lui non so bene cosa stia facendo. Di avvicinarsi. Io sono più indietro. Ma secondo me è tipo lui più indietro ma raggio visivo da me e okay. Io più indietro raggio visivo. Aspetta. Scegli adesso se fare o meno. Sì, sì, sì. Un attimo. Leggo una cosa. Ok, gli dico ok, ti seguo. E mentre passo, cioè è una porta? Cos'è? Una porticina piccola. Una porticina piccola. E mentre passo, cioè mentre mi muovo per entrare, quando sono sulla strada lascio cadere un pugnale. Manovra di cosa per non farlo vedere? Che faccio sta cosa? È deception, direi. O rapidità di mano. O sleight of hand. No, uguale più o meno. Faccio ci sta più la seconda, anche solo di meno. Ci sta di più, però, come movimento. Dimmi tu come lo fai, dipende. Ci sta. Tipo, il pugnale non è il pugnale che uso, sono i due che ho nello zaino. Cioè, lui sta tenendo la porta aperta per farti passare. Sì, l'idea sarebbe, mentre mi giro per entrare, visto che la porta è piccola, dallo zaino lo prendo, lo lascio giù e entro. Ok. Così. Vai. 13. E ok, entri. E immagino chiudo la porta per non farlo. Lui che tiene la porta. Ah, ok. Entra dentro e dice: ma perché venire armati a un incontro del genere, in fondo? Perché non so dove mi avresti portato. Ci sta. Tipo, sta girando il tuo pugnale in mano. Va bene. La pietra, quindi? Dove siamo? Ottima osservazione, seguimi. Ok. Prende tipo da di fianco. Intanto noi proviamo a seguire. Sì, tu fammi un altro perception. Cioè, ci avviciniamo lentamente. Sì. Investigation anche. Se vuoi, sì. No, scherzavo, perception. Allora ho fatto 9 oppure 19, quindi prendo il 9, 9 e... aspetta, sì, 4, prendi il 9, sì, ok, va bene. 13. Ok. Allora, qui non ci sono e... però deduci che non dovrebbero essere lontani, però non li vedi più. Ok, e tu Giulio qualcosa? Cioè non possono essere lontani. Io mi dici che non possono essere lontani, però non sai. Mi avvicino e ti chiedo, fagli luce, che fine hanno fatto? Li ho persi da qua. Sono entrati in un vicolo, o hanno proseguito in una casa. Ok. Tu intanto ti fa proseguire un po', siete un... Cos'è, tipo un cunicolo? Io faccio... Sì, è un cunicolo, ti porta in uno stanzino... E ti dice, allora, direi prima tu. È uno stanzino piccolo, cosa vedo, un tavolo e da sì, solo? Sì, c'è un tavolo, c'è gente, no? Qualche armadio, no, c'è solo lui. E non ci sono porte? E... siete entrati da una porta, sì, in questo stanzino. Però è uno stanzino e poi chiuso. Ci sono altre tre porte. Uno stanzino piccolo con tre porte e qualche armadio, un tavolo, due sedie. Lui accende un piccolo lume, una sostanza non molto si polverosa. Sente nulla. No. Ok. Tiro fuori la pietra dalla tasca. Molto, molto bene. Allora, vediamo cosa ho per te. Io faccio un Detect Magic. E fa un Detect Magic, che trova incantesimi, giusto? Magia. Oggetti magici, qualunque magia. Oggetti utile. Entra a 30 piedi da me. Ok, vai. Tu sai che lui ha usato sì, ma in generale immagino che nello stanzino ne abbia anche non lui. Non c'è magia in questa zona. Ma la pietra tu immagino che sia magica. Tu, Filip, vabbè, hai questo. Magia? No. Nessun oggetto magico. Allora non c'è magia qui. Quindi io sono più di 30, abbiamo fatto più di 30 piedi. Ok. Vi siete mossi. È un bel cunicolo. Non so, se mi fai luce cominciamo a cercare. Allora faccio la luce. Lui ti dà un armadio, ti dà, vediamo cosa ho per te. Ti tira fuori sta spada di... Beh, è girato? Sì, è girato. Lo attacco. Scusa. Nota la cosa? Facciamo... si fa iniziativa, penso. Ok. È una 16. Sorta di round di attacco, no? Non so chi... Beh, contro la sprovvista. Non forse è con svantaggio. Non proprio. Perché comunque non è scorto la sprovvista. Non è contro la sprovvista perché è lì. Cioè, se io tipo... Beh, ti giri, girato verso l'armadio. Ma mi vedi. Cioè, nel senso che comunque ti attacco. Cioè non c'è quel colto alla sprovvista, okay, di Kera nella 3.5. Sì, non è... cioè, sì. Se uno è conscio della presenza dell'altro, non okay, c'è. Ne poi magari... se poi è ancora la cosa che non hai, non c'è se il primo ad attaccare. Sì, comunque attacca. Quindi ho comunque vantaggio critico con Assassinate qua. Sì, hai un pugnale solo, mi sa, no? Sì. Ho la rapier. Ah, per stocco. Sì. Vai. Allora. Anche perché poi ci non mi ricordo come funziona il critico. Poi ci sta un po' che ce lo aspetta. Un raddoppio d'attacco. Madonna. 10. 2 e 3 di dado. Non ero... cioè pensavo lo colpissi facile. Vabbè. 2 e 3 di dado non me lo aspettavo neanche io. Il pugnale può usare anche secondo te. No, non... io sì ce l'ho, però non ho i critici, non ho nulla lì sul secondo, quindi se manca questo il critico è la roba è solo sul primo, cioè no, il critico i furtivi. Il furtivo lo puoi fare una volta a round, se manco lo posso mettere sul secondo. Ne hai una round da usare, ok, se non lo usi con un attacco lo puoi usare con l'altro. No, queste sono le classi. Vabbè, fai di no, non lo becchi. Allora vado con il pugnale di seconda. Ne avevo due per fortuna. Ma non è nemmeno sempre. Vado? Vuoi parlare dei mostri? No, tu non ci sono segno. Sì, beh, ma tanto 10 slavi, 10 si immagino slavi, questo modo. Non avere anche altre statistiche. C'ha la cosa negli attacchi, in tutti gli attacchi hai vantaggio. Nel frattempo io ho fatto luce per far cercare e qualsiasi colpo è un fammi un perception anche tu. Ah no, scusa. Con svantaggio? Qualsiasi colpo che fai contro una creatura che è sorpresa. Io faccio 18. Sì, è vantaggio, ma non è critico. Perché non è sorpresa. Ok. No, infatti, di solito furtivi, non del critico. Quindi adesso li posso mettere sul secondo. Sì. No, sul secondo non li ho, anche sul secondo attacco ho vantaggio. Non aggiungi modificatore alla destrezza, ai danni. Ok. Però tu hai un furtivo a round, quindi che puoi usare. Ok, il furtivo, ma anche il vantaggio rimane? Hai vantaggio su tutti gli attacchi, okay, contro una creatura che non ha ancora preso il turno in sì, combattimento. Sì, no, quello sì. Vai. Ok, 20 di dado. Sì. Quindi cioè, critico. Andata bene una seconda, dai. E il pugnale fa di 4, vero? Se non ricordo male. Ce l'hai tu, penso di sì. No, perché non li ho segnati. Non li avevo mai usati. È una delle uniche avventure che non ho così. Quindi il pugnale fa un di 4. Ricordatemi il critico con frazione. Tutti i dadi. Tutti i dadi. Okay. Quanti dadi da furtivo hai? 3. Quindi sono 6 di 6 e 2 di 4. Oppure fai per 2 come per. Mi tiro due volte questi che non voglio cercarli. 4, 7, 10, 13. 13, 19, 21, 25. E 28. Quindi 28 danni totali. Totale. Muore. Torno su e... noi nel frattempo avremmo trovato la... è un tour. Abbiamo seppellito Capelluccio, vuol dire che... ma non sai qual è la propria tua. Vede qualcosa che potrebbe essere una piccola porticina. Sembrerebbe, boh, magari tipo lo scarico di qualcosa. Però guardandoci vicino potrebbe essere una porticina piccola. Beh, poi se aspettate un attimo arrivo e l'apro. No, sfondiamo. E intanto sentiamo. Beh! Sfondiamo. Prova di forza. Vai. Con un calcio immagino. Ma se non posso prendere la martellata. Se vuoi. Ascolta, sto tornando su, eh. Ma non lo so. Martellata in testa. Ecco. Sono i rischi del mestiere. Stiamo dicendo per vedere se apri la porta in quello. Quanto tempo è che non colpisce un compagno? È tanto tempo che Giulio non colpisce un compagno. Da quando mi ha ucciso con i cani, in pratica. Eri morto. Ero morto ormai. Infieriamo sul cadavere. 7 danni. Ok. Ancora non c'è due. Alas, giusto? 7 danni a lui. Sì. Giusto. Oh, come vi renderete terminato? È terminato? Perché è terminato? Non lo so. Sta andando la diretta però, Il timer. Sì, sta andando. La fa sempre sta cosa, non so perché. No, vabbè. Interrotta però. Sì, sì, interrotta. Male. In diretta, aspetta. Vabbè, per il podcast ci siamo, poi vedremo. Ma io lo vedo in diretta, 2 ore e 16. No, trasmissione interrotta. 2 ore e 29 e 58 secondi. Forse a 2 ore e mezza c'è un... No, limite. In realtà no. Non l'ho fatto di più lunga. Allora... Se ci hanno messo per impedirci a noi di usare. Però vedi che qua posso fare la trasmissione. No, compisco più altri video in diretta. No. Rimane. Stai ancora trasmettendo, però è come se avesse un problema. Ho fiutato l'affare, adesso avrà il messaggio. Vuoi continuare la diretta? Paga l'iscrizione a Facebook diretta. Zitto. Non li siamo bloccati in questa. Sì, siamo tipo bloccati. Ma l'audio non si sente neanche, vero? No, non si sente neanche l'audio. Va bene, allora. Vabbè. Intanto proseguiamo. Il video sarà disponibile. Però terminato, non so. Bene, mettila così e poi aggiungi. Se volete vedere il finale, iscrivetevi. No, non so se terminerà. Se andremo splash, soli 3 anni. Vabbè, manca poco, dai, ormai termino, andiamo avanti. Se no faccio un po' più. Versione premium. Con 11 la colpisco la porta. Sì. Faccio altri 8 danni. Sempre una martellata e una parete, questo è nella visione. Cioè, se uno passa di lì vede che stai andando martellate a una parete. Ok, c'era un chiodo. Tanto sì, diciamo che è troppo violento come pensavo, come il titolo, però è lo stesso. Vabbè, ci sta, si è cambiato. Magari posso cambiare anche il titolo, dai. Il titolo? La fine di Piti. Incendiare. Dopo gli incendiare. È finito di Piti. Sì, Piti è finito. Allora, dopo infatti li cambio il titolo, dai. E allora... Beh, se non la butta giù... Vabbè, continuiamo a prendere le martellate. Sì, sì, sì, no, secondo martellate l'hai fatto quanti? 8 danni. Ok. Intanto tu cosa fai? Guardi cosa c'è in questa stanza? No, ho detto torno indietro, visto che lui è morto e... Ma non guardi cosa... Che cosa c'è? Vabbè, per una volta sto tornando indietro. Gli apro la porta e andiamo tutti insieme. Per una volta che lei sta vuole far partecipare anche noi. Ma vuoi, lasciarlo sì. Così? Senza guardare niente. Va bene, se come mi citi così tanto... No, come vuoi, nel senso, mi sembra assurdo per il tuo personaggio. Lo so, va bene, io intanto smanetto sì, e... Sì, però cerco. Ti fa... No, in realtà no. Scusa, fatto che hanno camminato. Un po' sì. Cosa faccio invece di me? Quindi noi abbiamo fatto tipo 4 tiri. Ma voi, rega, eravate abbastanza lontani per non farvi vedere, comunque. Più non avete trovato per un po', cioè avete cercato per un po'. Abbiamo fatto 4 tiri, 6 per 4. Io l'ho ucciso in un turno però, quindi ho 3 turni su per cercare. In effetti. No, ma... Cioè, secondo me è no, ma a lato pratico anche di più, cioè non eravate all'interno del turno. Perché non... Cioè tu inizialmente non li hai proprio più visti, quindi siete stati lì. Non è uno che prende a martellato una porta, fa un casino bestia però. No, quello sì, e infatti adesso... Arrivano le guardie. Era quello che dicevo, se cosa faccio di investigation? Vabbè, comunque se volete facciamo loro, visto che sono un po' agitati. Allora, Giulio, stai buttando giù la porta, fai un altro tiro per buttare giù la porta definitivamente. Aspetta, fermo. Ti sembra che ormai sia, cioè l'hai bucata fondamentalmente. Allora vai. Cioè vuole solo uno per tirare giù il resto. Allora vai, tira giù. Ok, dai, allora faccio semplicemente un attacco normale, visto che mi sono accorto che è quasi rotto. Tiro per colpire. Che cose discrete non so se ci dai. Tu video termina. 15. Ti scrivo 4 danni. Sì, la butti giù. Ora mi fai un tiro di riflesso. Di riflesso. Cazzo, di riflesso è schifo. Trappola. Ah, potrebbe. Cioè, di strezza. Sì, sì. 1. Ma smettiti di rompere i coglioni a quest'ora! Boom! Secchiata d'acqua. Secchiata di merda in testa a Giulio. Cioè, dalla casa. Sì. Io faccio scusi, ci scusi. Proprio... Che schifo. La porta di questa casa... Cioè, presente quando ti sei bagnato col sangue dei secondi... La porta è caldo casa. Uguale la porta di questa casa. No, aspetta, la descrizione è bella, ti prego. Fresca. La porta di questa casa. La porta di questa casa è sull'altro lato. Ecco, dicevi del fatto che non ci laviamo da un po'. Ecco, aggiungi avanti. Credo proprio di sì. Con del sangue. Faccio investigation o apro a caso? Intanto. Beh, sì, perché è rimasto? Faccio prima sul suo corpo. Non c'è tanto da trovare. Vai. È bellissimo. No, non importa che dire. Questa ferma immagine stupenda. Non vedo niente. È rimasto bello bloccato. Sì, è bellissimo. Sì. Oh, aiuto, sto scomparendo. Va bene, i nostri amici del podcast ci seguiranno. Ok. E va bene. E... Nell'armadio che aveva aperto effettivamente c'era una spada d'argento. Solo quella. E addosso a lui gli trovi effettivamente 20 monete d'oro. Beh, ho recuperato quello che ho speso di là qua. No. Recuperi il tuo tra le 5 d'oro al tipo e... Ah no, ma quelle di fatto non gliele date. E lui? Ah, ma ha seguito a credito così? Vabbè, io non so, cioè non è subito. Okay. L'ha bevuta lì. Togliti una moneta d'oro. Ricordo. Ok. E quindi no, una ventina di monete d'oro mie. Sì. La spada la posso anche vedere. E altro non c'è? Lui, stanzina vuota. La stanza ci sono, c'è un po' di roba tipo stracci, cose varie. Ci trovi dentro. Adesso che ci penso, sì, aveva delle informazioni, mi sa, però. Dovevo ucciderlo così. Vabbè. Ci trovi. Abbastanza monete d'oro. Ci trovi anche una faretra con 20 frecce d'argento. Buono. E facciamo che ci puoi trovare cosa? Un po' di alcolici, qualche bottiglia d'alcolico, un strano involucro di erbe. Ok, prendo. A lui può essere utile. Un rotolo. Che senso? Qualche rotolo di pergamena vergine, cioè non scritto. Ok, aspetta che me lo scrivo, che questo mi serviva. Se trovi diamanti per 300 monete d'oro posso rifarlo? Trovi diamanti per 299 monete d'oro. No, scherzo. Vabbè. Ok. No, non è vero, non trovi diamanti. Non posso farlo suscitare, mi dispiace. Trovi degli arnesi da scasso. Quelli mi sa che li ho, però. E... Sì, sono gli ho quelli, vabbè. Vedi tu se vuoi prenderli o meno. E... Faccio per due sul kit. Il kit, immagino, no? Sì. Ok. Trovi anche un kit che sembra per veleni. Con un po' di roba. Mi sa che c'è anche quello, aspetta. Sì, per due, ok. E beh, sei un po' carico di questo punto. Sì. E ci viene ad aprire. Trovato niente? No. Vabbè, recupero il nota credibile. Quello che aveva preso lui. Sì. Lui aveva una daga. No, sono troppe. E... Boh. Addosso aveva una spada corta, cos'era? Addosso aveva un ciondolo e alcuni braccialetti che non attirano la mia attenzione. Boh, sono non particolarmente. Cos'era? Spada corta, spada. Cosa? Quella d'argento che voleva darmi. Una spada lunga. Spada lunga? Ok. Ah, però. Beh, fra l'ora e un quarto attacchi il turno. Ci sta. Mi metto tutti un po' d'ansia. E... ansia, scemo. Io forse mi sveglio, però. Non è ancora... No, io poco prima. Ci trovi dentro un paio di candelabri d'argento, anche questi. Vabbè. Ok, basta. Non c'è niente di interessante. Non ci sono documenti o cose strane, no? No. Okay. Una condizione atmosferica. Va bene. E... nessun simbolo, nessuna cosa, neanche sulle porte. No. Almeno per i prossimi due mesi ci sarà. Le porte sono chiuse. Le tre porte. E sono chiuse. Cioè, in realtà. Una è chiusa, l'altra no, oltre a quella dove siete venuti. Su di lui trovi un mazzo di chiavi. Voi? Provo ad aprire. Prossima settimana. E prima apro quella aperta. Guarda cosa c'è. Beh, nel frattempo non scendiamo. Allora, è molto, molto stretta, dovete gattonare. Ah, è così piccola? Sì, è piccolina. Cioè, lui e lo gnomo riescono a passarci... però è okay. Cioè, allora, per voi è molto basso, visto che sono coperto di merda. Dico, vai avanti tu. Vai. Ah, credevo andassi su io. Non vai su da te. No, sì, dopo vado su, ma c'erano due opzioni: o sfondavo la porta con tipo una martellata piena di fulmini, oppure aspetto che lui torni su, gli faccio scassinare la porta, io cagagli sullo zerbino. No, vabbè, basta che fa così. Bene, vado prima io allora. No, vai tu, io ti aspetto qui, che sennò immerdo tutto. Okay. Poi quando dovete uscire? Vado io, mentre tu, vabbè, hai quello che devi fare. Esattamente. Come far estinguere una città? No, da sarò stilte in questa occasione. Aspetto che tu esca, ti faccio aprire la porta e poi mi lasci fare. Oddio. Che dico? Lui viene su. Il cunicolo è buio. Vabbè. Sì. No, ha acceso una lanterna, hai detto. Sì, ma un muro? Non una lanterna, una torcia. Ah, ok. Dentro. Ok. Accendo anch'io una torcia. Beh, quando lui è tornato indietro l'avrà ripreso. Ok, quindi prosegui a, diciamo, più o meno carponi con la torcia avanti. No, se no gli faccio luce prima su qualcosa. No, vabbè, ce l'ho una torcia. Va bene. E last perception. Papà. Tu lo fai stealth? Percepisci una gran puzza di inferno. No, l'ho preso ancora. A un certo punto senti dei passi da quella dal corridoio da dove state arrivando. Porte chiuse. Ok. Beh, cioè, io dietro. Stavo aprendo, era aperta delle due porte l'altra. Tu stavi aprendo l'altra, sì, cunicolo buio. Cosa vedo? Cunicolo buio. No, io vedo... quei cosi. Ah, beh, cunicolo... 60 piedi dark vision. Più cunicolo non particolarmente buio, ma che gira. Stronzo. Se vuoi allora, andare, accosto un attimo e apro quello chiuso con le chiavi. Ok. Intanto senti i passi che si avvicinano. Sono in uno stanzino... Chiudo la porta. Mi sentirà anche che è più un gattonare. Eh? Sentirà anche che è più un gattonare. Sente di qualcuno che si avvicina. Sì, ma... chiudo la porta a chiave. Da dove siamo arrivati? Tanto avrà nel mazzo di chiavi, ci sarà quella che la chiude. Vuoi provare prima quella che chiude giù, quindi? Chiudo quella da dove siamo okay. arrivati, sì. Fammi un tiro di fortuna. Più alto è meglio, eh? Sì. Facciamo, ok. Facciamo percentuale, dai. Fammi la percentuale. Dai. Ci sta. Quante chiavi ci sono? Uno saranno... per non far casino con le chiavi. Ah no, quante chiavi sono? Dai, tre. No, che okay, tre chiavi? Ci saranno 12 chiavi. Cazzo. Allora, di 12? Allora, tiro di 12. Fai 10 chiavi, che è più facile. No. 8. Questo qua. Tiro anch'io, dai. Dammi un di 10. Beh, è percentuale, però vabbè. Non era? No. Prova, adesso però è... dovresti stare migliore. Un di 9. Ah, vabbè, giustamente. Vabbè, tira e ritira. Beh, togliamo l'8. Io ho tirato la 8. Tira di 10 e se poi io ho il 10. 4. No. 2. No. Sei quasi alla... Vedi una porta, Filippo. Da 0. 10. È là. No. Senti che qualcuno è dietro la porta ora. Verso di lui. Ultimo tentativo. Okay. Verso fuori. 7. No, non va. Senti qualcuno che sta mettendo il chiavistello dentro, tu, Filippo. Io apro. Qualcuno sta per entrare. Se vuoi puoi provare a nasconderti da qualche parte o in un'altra porta. Da dove si apre? Si apre verso l'interno così o verso di lui la porta che sta aprendo? Verso di lui che sta aprendo. Io gli pareva lo stocco in pancia. Hai il tempo volendo per nascondere. Mi nascondo dentro l'armadio. Sa che noi eravamo lì. Dentro l'armadio o dalla porta aperta? Sì, comunque l'altro è andato. Vabbè, non posso saperlo. Non lo so, è vero. No, però. Sto giocando come se non lo so. Non lo so. Non so se l'hai trovata di sopra. Sì, nell'armadio va bene. Quello dove c'era la spada e lo socchiudo in modo da vedere chi entra. Ok. Fammi uno stealth. Ehi, 27. Fammi un perception. Ma che perception? Entro, vedo il cadavere e dico, ah, Eric ha fatto il suo lavoro. E poi... Fammi un perception. E dai, giocatelo su. Non lo posso vedere se ha fatto 27. Allora non farmi un perception, quello che ti dica. Cioè, se non puoi farlo, lo farlo. E... Allora... Vedo lui che entra e dice sta cosa. Allora, tu entri e vedi il cadavere di un gnomo per terra con le tasche rivoltate, un tavolo sul quale ci sono un sacco di cose tipo una spada, un affare. Dove cazzo te le metti? È vero, sì, la spada è lunga. Esattamente, sì. Io mi immagino tipo dentro l'armadio. Non mi è la faretra perché la posso prendere. 20 frecce la metto nella mia. Non è specificato, c'è tutto sul tavolo. Ma non è vero. Vecchio, sì. Vabbè, ma la faretra era ovvio. C'è tutto sul tavolo. Al massimo puoi avere il pacco d'erba con te, se vuoi. No, voglio la faretra. C'hai le chiavi, con te c'hai le chiavi, i tuoi pugnali. L'erba pipa! Il pacco d'erba, l'erba pipa, quello che è. Così mi tocca anche di vedere le frecce. Le 20 monete d'oro. Tanto non hai capito. Guarda che t'attacco. Io no, ti prego. Davanti a te ci sono degli armadi aperti, uno chiuso e una porta aperta sulla tua sinistra, una porta chiusa sulla tua destra. Però vedo il cadavere. Vedi il cadavere. Cadavere. Io lo vedo, lo vedo entrare e vedo che è lui e esco. Allora. Hai fatto tutto senza di noi, ottimo. Non c'è stato modo di farvi trovare la strada più velocemente. Noi abbiamo fatto un po' di casino fuori, quindi adesso. mentre mi avvicino al centro della stanza a sto tavolo che parliamo, faccio slide of hand almeno per prendermi tutte le monete. Qui arriverà lui. Allora per prendere le monete. Cioè le monete. No, mi sarei regalato, ora che voi vi svegliate. Allora per prendere le frecce. Faccio lì. Dai. Tira con svantaggio. Che cattivo che sei. Però in realtà sarebbe contrapposta. Tira con svantaggio tu perception. Quindi. 11. È uscito. Lo svantaggio terribile. 11 hai fatto. Sì. 20. Boom! Vedi sto le frecce su Alfling che si vuole prendere inquattare le frecce. Ovviamente lui che sta prendendo, io faccio grazie. Sapevi che un arciere ha sempre bisogno. È vero, tra l'altro te non sei un arciere. Devi fare un persuasion, un deception, però. No, vabbè. Me l'ero già scritta. Vaffanculo. Vabbè, tanto è tutto il resto. Va bene, ragazzi. Direi che possiamo concludere così. A parte, beh, no. Fammi solo aprire la porta chiusa, vediamo cosa c'è, visto che c'è lui. Sì. Un altro cunicolo. Ok, va bene. Un altro cunicolo. In caso decidiamo la prossima volta se seguirlo o meno, dai. Giulio, te è l'ultima mossa della sessione. No, no, stavolta voglio fare le cose stealth, aspetto lui per farmi aprire la porta e uccidere tutti. Cioè, volevo dire, andare a parlare con le persone. Comunque io le cose le ho segnate poi tipo spada lunga così. Ovviamente o le rivendiamo se le tiene. Va bene. Le può usare. Allora, quindi io sono lì che mi ripulisco. Va bene, a me allora l'ultima mossa della sessione. E cambiare il titolo. Mentre, a parte quello, mentre Giulio tu sei lì. Dai, basta cambiare con l'incendio, tipo, oppure la notte, la notte brava. Scusa, come si dice? La notte dico? Infocata, sì, oh! Bello, adesso lo cambiamo subito. Com'è che l'avevi chiamato, invece? Gli incendiari, ma adesso... Ah, perché dovevamo scoprire chi l'aveva fatto, in teoria. Poi avete cominciato a fare i bullmenti. Ok. Vabbè, ci sta. C'eravamo quasi, vedi? Belle le frecce, a cagare. No, in realtà no, però beh, è venuta bene lo stesso, secondo me sto carino. Sì, sì, allora, grazie alle frecce. Oh, a me è andata, non so, a noi cattolica è andata bene, non so. Per me è stata un'ottima sessione. Sì, che domani mi ritorno nella mia. Mentre casa. Giulio, tu sei lì che ti ripulisci. Chissà quante malattie arriva preso. Un po' di gioia, c'era lui, quindi è pulita. Ma è stata la tua responsabilità. Esatto. Ma sì. Capito, gliela ridarò io dopo che mi sono pulito. Un po' di puzza per me. L'ho dovuta prendere perché questo qua sapevo che si sarebbe sporcato, quindi sì. L'ho presa al volo perché si sarebbe sporcato. Che schifo. Allora, arriva un po' di gente. Ma che cazzo fanno quelli? Stanno con un secchio pieno di merda pronti a modi che mettono. No, è la latrina. No, sì, il pitale ha svuotato su. Ci sta, si sono svegliati e al posto di fare prima l'avvertimento e poi nel caso farlo, veramente ci sta. Dai. Comunque, diciamo che facendo uno di anche se ti avessero avvertito, l'avresti comunque preso in testa dopo. No, che magari se mi sarei interrotto, sì, sì. Mi avrei dato una mega martellata col fulmine e avrei distrutto tutta la parete. È stato bello vedere Giulio che martellava. Sì, così arrivavano anche le guardie. E pregustare questa cosa. Cioè, c'è già stato un incendio, sfiga. Esatto, arriva della gente che comincia a dire presto, presto, cioè qua c'è stato un incendio, bisogna aiutare, presto. E così finisce la cosa. Chi è che piano di sopra di secchiate? La... E tu che rispondi, vedi che avevo cercato altra gente. Ma cazzo, in effetti io potrei spegnere l'incendio molto facilmente. Ma non lo farò. Non lo farò. Ma infatti, Giulio, c'era anche la possibilità che tu uscissi e tipo vedevi le fiamme. Però in realtà non è andato così. Ma non è Giulio l'incendiario. Può essere. Mentre pregavo mi è scappato un fulmine. Pensavo, ero quasi sicuro. Allora, va bene, direi che possiamo chiudere. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Quanta malattia hanno preso a testa? Vendetta. Lo scopriremo nella prossima puntata. La mia paladina non è immune. Ah, forse, è vero. Posso prendere un livello da paladino un attimo in prestito? No, mi sa che è tipo livello 5 però, o 6. Quindi io sarò malatissimo. Dipende, non so con chi sono finito a letto. Magari era anche un uomo in tutto questo, un trans. In teoria con l'imposizione delle mani può togliertela. Però... Bravo, Kat, mi è piaciuta questa... Cos'è il biglietto? Tra l'altro i tag non me li ha presi, grazie. Posso chiudere... Cosa? Allora, cosa vuoi chiudere? La chiamata. Stavo registrando in Kiev. Ah, ok. Allora, avete visto il 13° episodio di Typhoons and Dragons, che è appena stato rinominato Una notte di fuoco. Facile così, eh. Era infuocata, però è più bello Una notte di fuoco. No, è più una notte di fuoco. Fuoco. È una notte di fuoco o una mattina di fuoco, perché suggerisce la malattia. Assolutamente sì. E vi ringraziamo per averci seguiti. Purtroppo il video Facebook mancherà di alcune parti, tra cui la sberdata di Giulio. Però vabbè. La racconteremo anche la prossima volta. Però l'immagine freeze che avete di Vez la descrive bene. Nel senso che cade dall'alto. No. Non è proprio lì col martello. Vi ringraziamo per averci seguito. Perché non ho usato due mani? Avrei fatto più danno. Sbagliato. Vi ringraziamo quindi per averci seguito e ricordandovi che ci potete continuare a seguire sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons, sul blog di rigdr.wordpress.com. Non questa sera, però un po' ci avete seguito. C'è qualcuno che domani mattina lavora. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi. Vuoi dire qualcosa? No, lavoro da te. Bravo. Lavoro. Grazie. E niente, allora per i prossimi episodi ho fatto lavoro mattina. Non sono sicuro. Stay tuned per i prossimi episodi di Coloni su Tycoons & Dragons. E serate per detto questo, so che Sal avrà già chiuso da più o meno mezz'ora. Non è vero. Però salutiamo i nostri amici del podcast, ma soprattutto vi ricordiamo che se volete, gli amici del podcast non li hanno visti, ma erano dei bellissimi gadget. C'era una tazza di Tycoons & Dragons, un cuscino di Tycoons & Dragons. Il podcast sono io. Infatti verso lo stiamo iniziando a chiamare ispettore adesso. Questo gadget. Mamma mia. E con questi sentimenti vi lasciamo. Ricordate che potete shoppare su Society 6 anche il merchandising di Tycoons & Dragons e RGDR. Buonanotte a tutti. Un libro di Laz oppure un libro di battute di Laz, presto in edicola a puntate. Va bene, potremmo farci le maglie tipo quelle di Bart, no? Avete presente che c'è la puntata che fa le maglie. Lo streaming su Twitch e fare il sai perché è saltato? Perché è saltato Hobbs. Va bene, ciao a tutte. Ciao Sal, aspetta un secondo. Ciao.